Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Senti, non è che ti dispiace, ti ho coperto un po' il tuo nome. No, cioè, perché? Gattuso non è venuto bene, cosa qua. No, però per il momento c'è, capito. Però c'è anche Luca Gattuso, c'è anche Luca Cancellara. Buongiorno, sì. Buongiorno. Ci siamo un po' tutti, cari ascoltatori, anche perché giornata campale, giornata vera, giornata di grande sport, è per questo che noi siamo qua seduti e non facciamo assolutamente nulla. Sì, guarda, cioè, io già alzarmi dalla sedia sento fatica, sudo, sì, e quindi... Sì. Vabbè. Comunque, grandi risultati, sta succedendo di tutto, il campionato... No, campionato chiuso, sì. Però per il resto grandi notizie. Campionato chiuso, adesso non esageriamo perché poi so già come va a finire quando dico campionato chiuso, subito dopo la Juventus perde, no? Però oggi ha vinto, quindi cominciamo a dare almeno i risultati di oggi, no? Mi pare. Sì, oggi a mezzogiorno e mezzo la Juventus ha battuto il Chievo 2-1, è andato in vantaggio 2-0 prima no, con ma Macri. Così sembra poi che sei davvero un giornalista, vero? Cioè, ragione, questo, usi questo tono, hai ragione, fai il radiofonico, queste cose qua. Normale, cioè la Juventus ha vinto, tranquillo. Standard. 2-1. Ma 2-0. Sì, un po' più veloce, però ecco questo. Matri e Lichtsteiner, sì, ha fatto 2-0. Poi è arrivato il gollettino di Terò, sembrava che ce la facesse. Non niente. Solo calcio, guarda, io faccio una cosa: lasciamo da parte tutti quanti i risultati, sì, perché tanto gli ascoltatori hanno ben altre fonti per raggiungere questi risultati. Andiamo all'unico risultato che ha un senso. Luca Cancellara è ancora qui con noi. Sì, sono qui. Il tennis no, ti interessava. Dai, su, dai, Luca. Sta perdendo contro Cilic, il croato. Siamo vicini al 2-2. Di cosa stiamo parlando? Di tennis, Coppa, cioè, Davis, ecco, Fognini, diciamolo. Quindi avrà sulla racchetta e sul suo braccio probabilmente il punto della vittoria. Della vittoria. Seppi sta perdendo 2-0 con Cilic. Ecco, 3-6 sotto. Quindi siamo 2-2 complessivamente, si decide tutto nella quinta partita, nel quinto singolare. E vabbè. Invece in Italia-Francia del 6 nazioni stiamo asfaltando i Blues. Beh, ragazzi, calma asfaltando. Sì. Calma asfaltando. È vero che siamo soltanto al 22esimo del primo tempo, però siamo 13-5. Ecco. E adesso c'è un calcio di trasformazione proprio per la Francia, sai, lì in mezzo mette le mani giunte, calcia, e ovviamente era 10 metri dai pali, 13-8 in questo momento Italia-Francia, ebbene sì, è così. Beh, 13-8, comunque adesso poi dopo sai come va a finire, no? Sì. Cioè l'Italia gioca bene, mette cuore, fegato, milza, tutte queste cose qua, e poi prende 30 partite, esatto, di distacco. Esatto. Vabbè, però non è detto, perché magari anche qua, anche questa volta, magari la Francia si riesce a battere. Però andiamo anche direttamente, allora, invece, a capire quali sono i risultati. Possiamo dire soltanto i risultati senza fare tutte una serie di super sono i risultati? Sì, sono, ma i risultati. I marcatori? Poi dopo, abbiamo 2 ore, voglio dire, per parlare dei marcatori. Man mano racconteremo i marcatori. Diamo i risultati. Fiorentina-Parma 3-0. Genoa-Lazio vince il Genoa 2-1. L'Atalanta. Cioè, no, non sto urlando, è l'entusiasmo dei risultati. L'Atalanta vince 2-0 a Palermo. Sento l'entusiasmo dell'Atalanta. C'è gente che piange. Ecco. Pescara-Bologna 3-2 per il Bologna. Il Pescara era stato anche in vantaggio. È il risultato più eclatante della giornata. Dai, dillo. Il Siena, quello che aveva 6, te lo ricordi quello che aveva 6 punti di penalizzazione, che era là in fondo? Guarda, non mi ricordo. Io cercavo tra l'altro sempre il Siena, ma non vedevo mai. Sta battendo, era in fondo. Sta battendo l'Inter 3-1. Ma vabbè, sai che l'Inter sta giocando. Detto Franca, chi è che non batte l'Inter? Beh, non tutti. Adesso tu dimmi chi è che non batte l'Inter. Ad esempio, dai, la Juve non l'ha battuto perché ha perso in casa. Appunto, no? Dopo dico, poi basta. Noi abbiamo dato tanti punti un po' a tutti i bisognosi. Esatto. Inter, Sampdoria, Genoa. Capito, un sacco di squadre bisognose, abbiamo dato un sacco di punti. Mentre Siena sta vincendo 3-1, tra l'altro Inter in 10, perché Chivu è stato espulso in occasione del rigore trasformato quindi, da Rosina. Ricordiamo il risultato, 3-1. Ecco, Chivu fuori, Chivu quindi fuori, Inter in 10. Quindi Siena sta dominando un po' questa partita, mi viene da dire. Secondo te? Strama. Strama rischia? Adesso non rischia Strama. Secondo me non rischia, infatti. Dici che non rischia? Non rischia Strama. Sai chi è che ha rischiato? Il risultato della Juve ammazza campionato, l'abbiamo già detto. Sì, vogliamo ricordarlo. Arrivavamo adesso, verso la fine, dedicavamo l'ultima parte di tutta quanta questa storia, certo. Particolarmente interessante. No, la cosa importante è che, però, secondo me Strama rischia, poi rischia anche qualcun altro. Chi è che rischia? Gasperini. Gasperini, cioè, sai come Zamparini, no? Quello che, cioè, 2-0. Se l'Atalanta segna il terzo gol, Gasperini è a casa, sicuro. Sì. 2-0, forse riesce ancora a salvarsi, sai quelle cose. Perché, scusa? Ma sì, perché non è un risultato così drammatico. Ma cosa stai dicendo? Ma sì, 2-0. Zamparini, scusa, dice, beh, vediamo la squadra la prossima partita. Sì. Ma 3-0 lo manda via subito. Come subito, siamo messi con il rugby? Scusa. Adesso siamo 13-8. Sempre 13-8. 25esimo del primo tempo. tempo, ecco. resistiamo. Vabbè, però allora finalmente cioè questi qua sono tutti risultati incerti. Nella giornata di oggi c'è un solo risultato certo. Solo uno? Hai altri risultati. Quello non è un risultato finale. Il risultato finale della Juve lo sapete tutti quanti. Persino oggi è riuscito a segnare persino Matri. Cioè siamo veramente allo sbando. No. Poi il paese rischia di non riprendersi. Però il fulcro dell'attacco bianconero. Il paese non è pronto ai gol di Matri, ma neanche la Juventus è per quello. Però, Alcuni tifosi juventini non erano pronti. No, assolutamente. Io sto appunto per dicendo: ma dai, basta cambiare Matri, un gol. E ha fatto tra l'altro un bel golasso di un tiro al volo di sinistro che non è il suo piede. È vero. Se volete possiamo fermarci, qual è il suo piede, Facciamo un'analisi del piede di Matri? No, io per tempo dicevo, ma qual sarà il suo piede? Perché tutte le volte le sbagliava, quindi era del tutto inutile avere i gol di Matri. Il presidente della Fiorentina. Però parliamo invece di badminton. Badminton. Allora, badminton. Allora, adesso lo scopriamo. Te l'ho fatto dire a te, chi se ne frega, tanto sono problemi tuoi, voglio dire. Badminton. Potete anche chiamarlo volano, se volete, più facile. Facciamo un po', abbiamo l'ospite. Ragazzi, è il primo ospite. Portiamoci bene, intanto salutiamolo. No, ciao, intanto benvenuto Giovanni. Ciao. Diamoci del tu, no, Gio, tanto anche perché noi sei di badminton, sei giovanissimo, prima cosa, e quindi Giovanni Greco, no? Campione allora, italiano? Assolutamente. Tanto per dire, cioè in Italia tu vai a vedere dei giocatori di badminton o badminton? Badminton. Ecco, no, fermi. No. Ecco, no, io già mi immagino quanti sono. Scusa, adesso parliamo di badminton e girano, hai capito? No, guardate che divertente. Cioè, ragazzi, però non è che poi badminton quando arriva alle Olimpiadi, poi vinceremo la medaglia, queste cose qua, fate i ganassa. Voi andate un po' tranquilli, adesso stasera, per esempio, quando andate a cena, no? E parlerete di Super Bowl. Sì. Buttate lì, però avete visto Greco, tutti... Fermi. No? Cioè, capito? Tutti fermi. Chi è Greco? Gioca a football americano? No? Beh, badminton, capito. Tra l'altro, Giovanni, quando tu dicevi quando si vince le Olimpiadi... No, io ho intercettato che ha nascosto le mani sotto il tavolo. No, non so, si è toccato. Sì. Scusa Giovanni ci allora, sta preparando. Parliamo con Giovanni. Allora, io vorrei parlare per delle ore con Luca Cancellare e Luca Gattuso, però abbiamo invitato qua Giovanni Greco, parliamo con lui. Badminton, come si dice? Badminton. Oh, campione finalmente. Italiano, oggi hai vinto il tuo titolo tricolore numero? 5. Vabbè, ti piace vincere facile. Chi è che hai battuto? In finale Marco Mondavio. Tu hai giocato bendato, cioè per riuscire a vincere. È stata una vera partita. Sì, si dice sempre così, se no. Scusa, Combattuta fino all'ultimo punto. Sì. Cioè, combattuta. Tutto attaccato. Sì, combattuta. Capito. Risultato, facci capire la partita combattuta. Risultato? 21-10. Questa è la partita combattuta. Pensa se non fosse stato combattuto. Ma scusa, hai giocato da solo. Non hai capito. Scusa. Dai, però il secondo set 21-19. Vabbè, perché è riuscito. Tu è riuscito, facciamo esplodere lo scandalo. Allora, l'allenatore di Marco Mondavio ti ha detto fagli fare qualche punto, se no mi si deprime. No, assolutamente no. Campione italiano, abbiamo il primo campione italiano. E tra l'altro, mi pare c'è un altro rigorino per la Lazio. Se non sbaglio, Spintoni a Marassi. In questo momento il Genoa, il risultato è 2-1 per il Genoa. Rigore per la Lazio, fischiato dall'arbitro Tagliavento. Tra l'altro, non molto simpatico per i tifosi genuani. Era già stato detto questo. E c'è stata una trattenuta in area, rigore al 36esimo, atterrato un giocatore della Lazio in mezzo all'area, grande caos con Kučka, anche lui finito per terra. Scusa, ho capito che quando guardi le figure ti appassioni, vuoi raccontarle tutte, no? Abbassiamo un attimo, abbiamo qui volevo presentarti Giovanni Greco, che è campione italiano assoluto di badminton. Badminton. Allora segniamola, perché così sottolineiamola, così evitiamo badminton. Senti Giovanni, chi è che tira il rigore per la Lazio? Vediamo come. Perché Hernanes non c'è, capito? Il profeta non secondo c'è. Secondo me Mauri. Bravo. Infatti, Mauri lì è bello pronto, agile, scattante. Sta per tirare questo rigorino che lo porterà il pareggio alla Lazio e che la farà ancora, come dire, restare lì, lassù in alto. Aspetta, calmo, perché si è snaricciato Mauri prima del rigore. E quindi? E quindi non lo so se questo è un aspetto positivo o negativo. Un mezzo metro fuori dal limite dell'area. Tagliavento, guarda i giocatori. Frey si sputa sugli guanti. Scusa, Giovanni, però c'è il rigorino. Sì. Sai com'è il calcio, è così. Allora, Frey si è appena sputato sui guanti. Poi, che serve? Il problema è che la Lazio sta giocando contro il Genoa e quindi Luca Gattuso non capisce. Ecco qua, golasso, grande Mauri. Il 2-1 di Floccheri, il 2-2 di Mauri che va rapidamente a recuperare palla perché la Lazio. E quindi c'è ancora spazio per il prossimo gol, per un altro gol. Però torniamo. Perché hai scelto il badminton? Badminton. Cosa c'è? Tu c'hai davanti a te. sci, vela. A Palermo è dura, eh. Perché scusa, Tomba a Bologna poteva farlo, lui non può farlo a Palermo, scusa, vicino, non c'aveva lo sci adesso, vabbè, non c'aveva, togliamo via lo sci, allora, vela, nuoto, cioè, calcio, ovviamente calcio c'è dappertutto, queste cose, basket un po' meno, però ecco, e tu hai scelto il badminton. Sì, perché già mio cugino giocava a badminton, quindi da lì ho cominciato anch'io. È andata bene. È andata bene. Se faceva pesca d'altura, tu andavi a fare pesca d'altura col tuo cugino. Probabilmente, guarda. Quindi, stiamo parlando con Giovanni Greco, originario di? Palermo. E chi è che ha segnato? È il Palermo. Eccolo là. Ha segnato il Palermo? Sì, sì. Ah, quindi 2-1? Esatto. Chi è che ha segnato? Adesso lo vediamo, ha segnato il Palermo 2-1, gol, vediamo, un cross dalla sinistra, poi... te lo dico subito che ho segnato. Tanto vabbè, non importa, non scusa, se non lo sai non importa. Volevo sapere invece con Giovanni, che tra l'altro dobbiamo anche dirci che tra poco, voglio dire, non è che abbiamo tutto il tempo per, vorremmo continuare a parlare e parleremo ancora. Resta con noi, non è che devi andare via, no? Ok. No, sei campione d'Italia, puoi fare quel che vuoi adesso, perfetto, a questo punto, perfetto. No? No, volevo anche capire invece da te, no? Allora, intanto le regole. Cioè, ti dico il badminton, sì, però il badminton che cos'è? No, non ci sono regole. Per natura, no, il badminton. Scusa, no. Non sei Giovanni Greco. Sto parlando con Giovanni Greco. Stai zitto. Ma la sua vicinanza. Stai zitto. Com'è questa, le regole? Perché tutti quanti giocano a volano. Sì. No? Cioè, questa e cosa giocano all'aperto. Che giocano all'aperto e giocano in spiaggia. No? E invece no, lo sport vero si gioca al chiuso. Ed è anche faticoso. Abbastanza. Infatti sono un po' stanco dopo i campionati. Sì. Poi dopo la intervista vedrai che roba. Voglio dire, già, no. Si suda di più in un'intervista in radio o una partita di badminton? Indoor. Intervista in radio. Sto cercando di essere serio. Cioè, cercavo di spiegare il regolamento di badminton e come si gioca. Allora, vediamo, io vado a vedere una partita di badminton e che cosa vedo? Allora, sul campo cosa c'è? Due avversari o quattro avversari, sì. Cioè un singolo o un doppio. Ecco, quindi tennis simile, soltanto che il volano non deve cadere a terra, non rimbalza. Quindi non rimbalza. È pallavolo tipo, perché non deve cadere a terra. Il campo, la dimensione, il campo qual è? Un po' più piccolo di quello del tennis. Del tennis, un po' più piccolo. Però la rete è più alta. Ecco. Cioè non tocca terra. E non tocca terra il volano, no. Assolutamente no. Sotto. Ecco, quindi, quindi la rete è più o meno come il campo di pallavolo, cioè è alta con lo spazio sotto, giusto? Beh, sì. Così alta, sì. Come la pallavolo? No, oh, alta 1,50. Ah, 1,50, perfetto. Quindi non deve toccare terra, tu devi correre come un matto da quel punto di vista. Sì. E quindi questa roba qua, e tu sei riuscita. Allora cosa succede? Cioè, sì, battute, quella lì, sì. Normale, quasi come normale. Il tennis. La racchetta è diversa, sì. Giusto, da quella, sì. Di tennis? Com'è più che? Leggera, più piccola. Più leggera, più piccola. Poi, sì. C'è il volano, quanto pesa più o meno? Pochissimi grammi. Ah. E raggiunge velocità pazzesche. Altissime, sì, infatti, fino a 300 km orari. 300 km orari? Il volano? Il volano, sì. 300 km orari? Sì. Esatto. Addirittura in un test... Che motore è su, scusa? In un test sono arrivati fino a 400 km orari. Ma dai, e tu la vedi? Tu vedi il volano perché arrivare? Perché poi rallenta nel quando finale. Arriva a terra, sì, quello sicuramente. Il problema è al volo, sì. Quello di prenderlo al volo, insomma, sì, questo è il problema in questo caso qua. Ecco, quindi, vabbè, e tu ti alleni quante volte al giorno? Due volte al giorno al centro tecnico federale. Di quante ore? Due ore a sessione, due ore e mezza a sessione. Due ore e mezza a sessione, anche perché poi schianti per terra. Cioè, sì, è faticoso, cioè, sì, insomma, sì. Questa cosa qua. Vabbè. Insomma, tu hai iniziato perché c'era il cugino che ti ha un po' traviato in tutta questa vicenda. Sì. Attenzione, c'è di nuovo dibattito. Sì, c'è dibattito perché è stato ammonito Lulic, però tutti i giocatori del Genoa sono andati attorno a Tagliavento perché chiedevano un'espulsione, perché Lulic ha fatto un fallo su Olivera proprio entrando mentre Olivera stava scappando verso la porta, e chiedevano un'espulsione di Lulic, invece sì. Tagliavento l'ha solo ammonito. Nulla di fatto, niente di drammatico, insomma, per il momento. Esatto, intanto no, brutte notizie dal rugby, quelle cose che avevamo pronosticato. Cioè, hai portato sfiga? No, non ho portato, hai portato sfiga. Tu hai portato sfiga. No, io tu ho fatto la controsfiga, sfiga, cioè, esatto. Tu hai tentato questo siamo, è passaggio. Siamo 15-13 per la Francia, 39esimo minuto, Francia 15, Italia 13. Brutte notizie anche dal tennis, perché Cilic ha chiuso sul battendo 3-0 Seppi, quindi Italia-Croazia 2-2, tutto si deciderà tra pochi minuti nell'ultimo match tra Fognini e Dodik. Ragazzi, cioè, è una roba tristissima, sì, tutto quello che state dicendo, non va bene niente, non va bene il tennis, non va... per fortuna però c'è il badminton. C'è il badminton. Dai e vai, non è solo calcio. We'll be right back. Torniamo a noi mentre imperversa il calcio con partite che stanno quasi finendo, siamo perché ormai siamo ormai nel recupero. E quindi possiamo ricordare almeno i risultati velocissimo delle partite, tanto non sono tante. Esatto, Fiorentina Parma 3-0, Genoa Lazio 2-2, il Palermo accorciato 1-2 sull'Atalanta, Pescara Bologna vince il Bologna 3-2 e Siena continua a battere l'Inter 3-1. E poi abbiamo il tennis. E Cilic ha battuto 3-0 Seppi, quindi basta. Siamo niente. Aspettiamo Fognini Dodig che darà il punto decisivo. Bella, questo ci riempie di gioia. Mentre invece sul È finito il primo tempo 15-13 per la Francia. Tutti negli spogliatoi a togliersi un po' di fango addosso. All'Olimpico stanno entrando adesso. 15 Francia, 13 Italia. Ecco, allora la domanda che sorge spontanea. Noi abbiamo qui tra l'altro con noi Giovanni Greco, che è del campione italiano da quante ore? 3-4 ore? Cioè, 5, sì. 3 ore? Circa, si è già stancato di essere già un po' così annoiato. Ma sì, sono ancora più italiano. L'anno scorso eri campione. Non ho ancora finito la domanda. Fammi fare la domanda. Scusa, stavo lanciandola per riuscire a fare la domanda. Non c'hai capito? Italiano di badminton, per dire, cioè, volevo dire che col badminton si cucca. Abbastanza nelle trasferte fuori l'Italia, sì, dai. No, perché tu dici sei campione d'Italia di badminton. In Italia non interessa più di tanto, però in India la grande. Non solo in India, anche in Inghilterra un po'. Sì, perché dai. Tu sei andato poi nella città, no? Di badminton, sei andato? Sì, com'è? In provincia di badminton, prende il nome dalla città, perché tu non sai la storia del badminton, no? Vabbè, scusa, erano degli ufficiali inglesi che quando erano in India, sì, no? Giocavano, non avevano niente da fare, giocavano col volano, poi l'hanno chiamato appunto come la città. Senti, ma ce l'ho anch'io quel foglio lì, perché io non ce l'ho quel foglio lì. Scusa Luca, se tu non sei... Dov'è il foglio della storia? Ah, eccolo qua. Scusa Luca, te l'ho portato via io nella storia, capito? Perché ho detto, vabbè. Questa è cultura generale, sì, ragazzi, non sapete come nasce il badminton. Allora Luca, dimmi quando è che è andato alle Olimpiadi il badminton Allora l'ultima c'era e anche quelle prima, la prossima ci sarà Giovanni. Barcellona, ciao, sì. Ciao 92? Barcellona. Volevo sapere invece, ci vai a Rio, no? È fatta? No, non è fatta. Ecco, per andare a Rio come vai? Com'è che devo giocare tanti tornei internazionali e cercare di salire di ranking. E non ti vogliono le tornei internazionali? Sì, li fai, no? Sì, li faccio. Prossimo qual è? Il prossimo tra 2 settimane. Dove? Uganda. In Uganda? Sì. C'è il badminton in Uganda. No, lascia stare. Adesso non fare del razzismo. No, ma chi è che razzismo? Scusa, c'è il badminton in Uganda. Scusa, e chi è che paga? Cioè, quando vai in Uganda? Lui. La federazione ci sostiene. Nel senso che immagino che... E quanti atleti partecipano a un torneo internazionale in Uganda, per avere un'idea? Solamente noi della nazionale, quindi 3. Per l'Italia. Nel resto, più o meno, quanti sarete là? Una settantina. Quante sono le nazioni dove si gioca il badminton? Però non... Ovunque. Sì, sì. Pochi, ma però si gioca tanto. Sì, sì. Perché allora, il badminton, però, all'inizio, no, poteva essere come il curling. Non so, quando è arrivato arrivato in Italia le Olimpiadi, no? Bastava fare uno sport assolutamente insignificante per l'Italia, tipo il curling, no? Cioè tu stai dando dell'insignificante al curling? No, adesso dopo è diventato importante, ecco. Però allora, siccome le squadre che potevano giocare erano poche in Italia, quindi erano 2 o 3, quindi bastava vincere una partita e andavi subito potevi essere selezionato per le Olimpiadi. Il badminton c'è un sacco di gente ormai. Sergio, aggiorno la finale di Bologna-Pescara, 3-2 ha vinto il Bologna, perché stanno finendo le partite nel frattempo. Questo ci ripetiamo. Adesso c'è di molti che si giocano, no? Sì, abbastanza. Quanti, cioè, voglio dire, adesso qual è che, a parte Milano dove giochi tu che trionfa sempre. Sì. Poi dopo chi è che c'è altre città? A Palermo? Palermo, Roma. Palermo e Milano, cioè Roma c'è. Alto Adige, Torino, un po' tutto. Provincia di Alessandria, quindi c'è un po' collocato. Il finalista era di provincia di Alessandria. Cioè Marco Mondavio? Sì. Ah, non è di Milano lui? No. Di Alessandria era? Sì, di Acquiterme. Acquiterme, hai capito. Ma quante posizioni dovrai salire nel ranking per poter andare a Rio, più o meno? Così almeno facciamo il conto alla rovescia. Tante. Ci basta, tante. No, beh, adesso cosa sei nel ranking? Oltre 100. Vabbè, devi arrivare ai? 60. Ai 60. Dai, metà classifica la devi scalare più o meno. Sì, più di metà, dai. Vabbè, insomma. Comunque, allora, a questo punto, intanto, le partite non sono ancora tutte finite, in realtà, continuano a... Infatti, Giovanni è molto concentrato sulla televisione, perché in questo momento sta vedendo Palermo-Atalanta. Ricordiamo, Giovanni Greco, campione italiano di badminton. Tu, tifoso di che squadra? Quella vera? Sì. Milan. Ecco, tifoso del Milan, però tutto sommato simpatizzante del Palermo, come ovvio che sia, immagino. Sì, sì, sì. Esatto. Palermo-Atalanta, siamo 4 minuti di recupero al 49esimo, quindi ne manca ancora uno. Genoa-Lazio 2-2, qui i minuti di recupero sono 5, siamo al 48esimo, quindi ne mancano 2. La Lazio in attacco che spinge, cerca di passare a Genova. 2-2 il risultato. È finita per adesso solo Pescara-Bologna 3-2 per il Bologna. Ma tu hai una squadra, cioè hai un luogo, cioè hai qualcuno a cui affidarti, cioè uno che sei da solo, giochi, non ho capito come funziona proprio materialmente. Allora, io vivo a Milano perché mi alleno con la nazionale. Oh, quindi tu sei, come dire, un corpo separato, cioè. Sì, ma ho anche una squadra di club. Che dov'è? Di Palermo. Ah, ecco, okay, cioè. E qui non le vedi mai però loro, sì. Solamente per il campionato a squadre. Ah, ho capito. Ma c'è il campionato italiano, cioè sì. E ci sono più giornate oppure in una sessione? Sì, diverse giornate e più playoff. E vince la tua squadra, ovviamente. Ci sei da tu? 8 anni... vinciamo noi, speriamo che questo sia il nono, dai. Sì. Mi sembrava una volta come c'era la palla a nuoto, cioè, no, cioè queste cose, c'è una squadra che vince a tutto, no, in questo caso, vabbè, sono cose belle. E nel femminile invece? No, è mista la squadra. Ah, è mista? Sì. Ah, hai capito. Cioè, quindi, quando fate le giornate di campionato italiano, no, gareggiano... Scusa, cioè, no, c'è un rivolo di bava, no, che stava scendendo. No, ha segnato il Genoa. Hai no. visto? Ha segnato in questo momento il Genoa e questo un po' cambia un po' tutte le sorti di questo campionato, in particolare il campionato della Lazio. Grande Genoa, finalmente sei tornata. È bello averti qui con noi. Sai quando si dice fare il calciomercato a gennaio con i giocatori che non conoscono ancora la squadra? Ecco, è arrivato Marco Rigoni, che giocava nel Chievo fino a 3 giorni fa. Che non giocava neanche tanto male. Esatto. Era quello del Novara? Era quello del Novara, esatto, proprio quello lì. Quello del Novara, gli è arrivata una palla in mezzo all'area, lui di testa, con la sua bella testolina messa a fil di palo, Marchetti non l'ha neanche vista. Quindi 3-2, proprio nel recupero, a 4 secondi dalla fine per il Genoa sulla Lazio. Gol di Marco Rigoni. Tenendo presente che appunto non ha mai segnato di testa. No, perché lui c'aveva la castagna da fuori. Rigoni non ha mai segnato di testa in questo caso. Vabbè, Lazio si sta innervosendo, si stanno arrendendo molto, però ben 5 minuti di recupero. Sì, però sono finiti. Formalmente sono già scaduti. Sono finiti proprio ora, in questo momento. Ciao. E adesso vediamo se ne darà ancora un po'. Beh, tagliamento, no. D'altra parte, se è andata avanti in Coppa Italia, segnando proprio all'ultimo secondo, è giusto che in qualche modo tu possa perdere anche. C'è un invasato in mezzo al campo, risponde al nome di Ballardini che si agita come pochi. Beh, appena arrivato lui mica può essere subito cacciato. No, ha vinto e quindi grande Genoa è ritornato finalmente tra noi. Qui ci abbiamo invece, diciamo, invece la Fiorentina che sta vincendo 2-0, due gol di Toni. Di Toni. No, è questo. Cosa c'è che non va? No, è perché c'era anche quello di Jovetic, ma si vede che l'hanno annullato. Jovetic, mi suggeriscono in questo. Speravo in due gol di Toni, però. No, ha segnato Toni con assist di Quadrato e poi Jovetic il secondo gol. Quindi 2-0. Sì. Ma perché Toni poi prima l'abbiamo visto esultare? Perché forse quello lì l'avevano annullato per un fuorigioco. Quindi... Ah, l'abbiamo perso quello? Esatto. Ah, vabbè. Quindi è 2-0 a Firenze con Fiorentina-Parma. Genoa-Lazio è finita 3-2. Pescara-Bologna è finita anche questa 3-2 per il Bologna. Palermo-Atalanta 2-1 per l'Atalanta sul Palermo. E Siena-Inter 3-1. Questi sono i risultati. Mentre siamo nel recupero a Firenze, 50esimo, sono stati dati 4 minuti di recupero. Quindi dovrebbe già essere praticamente finita la partita. In ogni caso, sì, vi diamo tutte le possibilità però per contattare direttamente la trasmissione. 800-24-00-24 per far domande, ovviamente, al nostro Giovanni Greco, per tutti quelli che sono interessati al badminton in questo caso. L'SMS 349-238-6666, questo è l'altra linea dove poter arrivare, oppure sulla pagina di Face dove Dai abbiamo... e vai Radio 24. Dai e vai, non è solo calcio. Dai, dai, vabbè, dai i risultati per il fantacalcio, dai, che ti piace dare questi risultati qua, dai. Fiorentina-Parma 2-0, gol di Toni e di Jovetic i marcatori. Genoa-Lazio, ha vinto il Genoa 3-2, proprio nel finale, negli ultimi secondi. Per il Genoa ha segnato Borriello, Bertolacci e Marco Rigoni, per la Lazio Floccari e Mauri su rigore. L'Atalanta ha vinto a Palermo 2-1 con i gol di Carmona e Denis, per il Palermo ha segnato Nelson. Il Pescara ha perso 3-2 in casa, 3 gol del Bologna con Diamanti su rigore, Gilardino e Cone, e i 2 gol del Pescara tutte e due su rigore di Weiss e di D'Agostino. 3-1 invece del Siena sull'Inter, e Megara, Sestu, Rosina su rigore, e per l'Inter Cassano espulso nell'Inter Chivu per fallo da ultimo uomo che ha provocato il rigore del 3-1 del Siena. Basta, finito. Oggi Chievo-Juventus 2-1. Ecco. Chievo-Juventus 2-1 ha segnato Terò per il Chievo e Matri e Lichtsteiner per la Juventus. Beh, quello potevi dirlo anche un po' più lentamente perché era il caso. Comunque, vabbè, diciamo che io vorrei parlare con voi di calcio ovviamente per ore e ore e ore, anche tra l'altro con il nostro ospite che è Giovanni Greco, che non parlerà più di badminton, giusto? Badminton. No, perché è stato un attimo l'intervallo e già mi perdevo sul badminton. Ma noi parleremo invece con il nostro mister di oggi, che è Walter Novellino. Pronto, mister? Buonasera a tutti. Tutto bene? Benissimo. No, bene, perché si sta a casa, no? Sì. Anziché allenare, sì. No? Voi vi divertite, sì, abbastanza, a commentare le partite, poco, io sì, a guardarle. No, mister, oggi grandi notizie per i mister che sono a casa, eh? Sì, sì. Cioè Gasperini, Gasperini che se ne va, Stramaccioni che se ne va, eh? Ma no, speriamo, non è vero. Speriamo. Ha detto speriamo. Come Walter, mister. Ma mister, si comporti bene. No, sì, si dice sempre così, mister. No, però... no, però è la verità. Sì, appunto, però cioè, si sta guffando un po' qua e là, insomma, d'altra no, parte. Guarda, solo là. No, sono dall'altra parte. Ecco, sì, certo. Ecco, guardi, così per essere sicuri, no? Noi siamo molto sicuri di lei, ovviamente, però andiamo su Wikipedia e andiamo a cercare, ovviamente, per essere sicuri su cosa ha fatto lei. Noi sappiamo già tutto della sua vita. Quello no? Che ho fatto, allora, per tutto quello che ho fatto... No, non era allenare, questa l'intervista, dovrei Walter. Dovrei allenare per forza. Walter, ma non era questa l'intervista, sappiamo che... E dove meriteresti sì. ben più di una squadra, tra l'altro. Prego, ecco, prego. La cosa che ci ha un po' colpito è che all'anagrafe, lo faccio dire... Lenin. Esatto. Alfredo Walter Amato Lenin Novellino. Allora. L'ha scoperto Luca Gattuso, questo. Amato io. Lenin. Sì, perché è questa. Ecco. Siccome mio babbo era l'unico comunista nel paese erpino, vicino Avellino, Montemarano. Era l'unico... comunista, e allora siccome lui gli piaceva Lenin mi ha messo un nome Lenin. Sì, ha messo, certo. Era l'unico comunista in Irpinia. Sarebbe stato tra l'altro più o meno l'ha messo quarto nome, che erano i quattro dei comunisti. No, che... ma purtroppo me l'ha messo per quarto nome perché non si poteva mettere per la chiesa, sì, no? Sì, vabbè, insomma, certo. Allora l'hanno messo quarto, però in fondo. L'unico comunista purtroppo era il mio padre. Ecco. Che vita d'inferno. Vabbè, comunque allora, torniamo a questo campionato e prego. Torniamo a questo campionato che insomma, anche lei stava guffando contro la Juve oggi? No. No, direi di no. Assolutamente. Ecco, devo dire però il Napoli è una squadra che può insidiare benissimo la Juventus, ma quella che mi ha fatto più è stata l'Inter, insomma. Ti ha impressionato un po' l'Inter? Sì, in negativo però. Sì. Ecco, non in positivo. Diamo qualche numero, Novellino, perché l'Inter nelle ultime 7 partite ne ha perse 3, pareggiate 3 e vinta 1. Sostanzialmente una media da retrocessione. Sì, oltretutto non è che nelle ultime partite aveva fatto bene, ma anche oggi... Attenzione! Parliamo di un grandissimo Siena, che non vi ha concesso niente. Vuoi sentire due frasi con noi di Stramaccioni, come tenta di giustificare la partita di oggi? Ce l'abbiamo al volo. Ma lo so già cosa dice. Sentiamolo. Scusa, sentiamo. Era una formazione in grado di battere il Siena. Certo. La pensa così, Stramaccioni? Sì, assolutamente sì, infatti è una brutta sconfitta e Non mi è mai piaciuto e mai troverò, anche secondo me nel nostro forse momento più difficile, trovare alibi, quindi è una brutta sconfitta e... Ok, Walter, vai avanti tu, tanto dite sempre la stessa cosa. Esatto, è una brutta sconfitta, noi l'avevamo preparata benissimo, sì, certo. Ma purtroppo il Siena aveva qualcosa più di noi. Esatto, sì. tipo un giocatore in campo in una parte della partita, perché ha giocato anche in 10 l'Inter. È una partita persa su episodi. Episodi purtroppo capitano, non possiamo far niente. Lì non c'entriamo noi allenatore, ma Non era contro il Siena che dovevamo recuperare dei punti, dice l'Inter. Senti Walter, ti diamo del tu perché ormai... Ma ci mancherebbe. Esatto. Ma un allenatore si rende conto quando la squadra gli gioca contro? Perché ogni tanto si dice, ma la squadra sta giocando contro. Si è detto anche su Zeman, una parte della squadra... No, ma non ci credo, guarda. Su quello non ci credo. Non ci credo perché onestamente il giocatore è un professionista. Zeman forse è stato un po' troppo integralista, si può dire, sì. Sì, no? Come, sì no? Certo. Come no? Cioè, da uno che si chiama Lenin è l'ultima cosa. Devo dire che l'ha voluta lui, secondo me, perché onestamente i calciatori sono anche degli uomini, anche dei padri di famiglia. Però bisogna saperli. E non tutti gli uomini sono portieri, tra l'altro, voglio dire. Esatto. Ecco, in questo caso. Ecco, perché io mi riferisco anche al portiere, come Steckelenburg. Steckelenburg, che lo mandano di là, poi lo riporta, non è una cosa bella. No, No. Poi De Rossi, secondo me, non me ne voglia, Taxidis qualcosa in più ce l'ha. Di Taxidis? Ma chi l'avrebbe mai detto che De Rossi ha qualcosa in più? appena accennato. Non me ne vogliono i miei colleghi, i miei giocatori. No. Per capirci, in realtà Zeman se l'è voluta, insomma, ha forzato. Un po' forzato. Però qui la situazione dell'Inter mi sembra un po'... Cioè, Stramaccioni è stato di botto, come dire, ridimensionato, no? Beh, normale, Io credo che sia normale, perché d'altronde l'esperienza d'altronde non è che si inventa in un giorno o in un anno. Qualcosa paghi sotto questo aspetto. Ecco, però... su sta cosa qua, voi che avete un'esperienza, che avete fatto la gavetta, un po' ci godete. Cioè, quando vi arriva... Alla grande. vi arriva il giovincello che inizia a fare 4 risultati, poi tutti dicono la nuova leva, e invece poi perde... Per allenare in Serie A ho dovuto vincere 6 campionati. Certo. Lui ha vinto 6 partite, tra l'altro. E allenava in Serie A, tra l'altro, in questo passaggio. No, vabbè, d'altronde è un percorso, ci sta, no? Sì. Non devi anche pagare qualcosa. Sì. Però devo dire che è anche giusto che lui abbia la possibilità di allenare come l'ho avuta io inizialmente. Io sono stato fortunato che avevo Gaucci, allenavo gli allievi, mi ha portato in prima squadra e quell'anno abbiamo vinto il campionato. Mm-hmm. Ci sta anche che Stramaccione abbia l'occasione per poter allenare. Poi alla lunga si vede chi è il più bravo, insomma. Sì. Vabbè, insomma. Ricordiamo Walter, grande cuore blu cerchiato dal 2002 al 2007 nella Sampdoria. Alla grande Walter, così ti voglio. Walter, non volevo chiudere così l'intervista in questo modo, però no, parliamo un po' di questa Juve, cioè Del Piero o Anelka? 100.000 volte Del Piero. So, perché adesso è arrivata Anelka alla fine della fiera, cioè, cosa, se ne fanno? Cosa se ne fanno? È un top play? Vanno tanto di moda parlare in inglese, purtroppo io è 3 anni che sto imparando, ma non vado di moda. No, però dici, nel caso servirà niente sostanzialmente. No, credo di sì, cioè, un buon giocatore, però è un giocatore che ha avuto in questo periodo, mi sembra che sia infortunato, non è che ha fatto granché in Cina perché per infortunio, però è un giocatore che secondo me può dare una mano, però l'Inter c'ha già, la Juventus scusate, c'ha già Quagliarella, Matri, non so. Sì, finalmente Matri è riuscito a metterla dentro oggi. Però. C'è riuscito. Tra l'altro, un bel gol, devo dire. Molto bello, molto bello. Non era il suo piede quello, mi diceva, no? Quindi... No, non è il suo piede, però è stato molto bravo a far finta di andare incontro e allungarsi, e lì è stato bravo nello smancarsi. Ha fatto un bel gol. Grazie, mister. Ci sentiremo ancora noi prossimamente. Siete simpaticissimi. Grazie. Saluti a pugno chiuso. Ciao, grazie. Salve. Non si può dire. Ciao. Vabbè, sono cose che succedono, eh. Cioè, voglio dire, lo so. Con la nuova apparenza andiamo dita al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando. È grande vecchio che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me, Melina, balla. Che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, Melina, balla. Piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me, Melina, balla. A lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Che sia cornuto l'arbitro e pure il giocatore, ma noi abbiamo qui un giocatorino, mica da ridere, non stiamo parlando di calcio, ma stiamo parlando di badminton. O badminton, non badminton, mi ricordo. Badminton. Luca, devi farti una ragione, badminton. No, volano. Scrivi A, la circondi un attimo là e ci siamo. Giovanni Greco. Cioè, allora, parliamo di veramente dello sport, questo sport importante che non è il badminton, ma il Super Bowl. Te ne frega qualcosa te del Super Bowl? Sinceramente no. No. Zero proprio, cioè tu dici questa qua che si agitano per il Super Bowl, questa cosa qui è una cosa che ti è molto distante, insomma. Quindi stasera tu a che ora vai a dormire, scusa? Stasera? Festeggi stasera, stasera no? Festeggio. Festeggi. Ah, come festeggi? Dove? Sentiamo, come si festeggia? Ah, ancora non ho organizzato niente. Pesce. Vediamo. No, pesce, cioè. In caso ci fai sapere, ci inviti. Cioè, certo, certo. Ristorantino, queste robe qua, un po' di gente, insomma. Comunque, se volete fare qualche domanda a Giovanni Greco, campione, neocampione italiano di badminton, individuale maschile, se diciamo ha vinto oggi, il numero dell'SMS è 349-238-6666 oppure il telefono 800-2400-24. Parlate direttamente con lui, con un campione italiano, ecco, con Giovanni Greco. Usate gli SMS, non occupate il telefono per fare domande al badminton, cioè non esageriamo da questo punto di vista, cioè stiamo soltanto sugli SMS. 349-238-6666. Adesso non vorrei esagerare. Se proprio volete fare, tra l'altro c'è la foto di Giovanni sulla nostra pagina Face, te l'abbiamo già messo lì, che stai giocando alla grande in questo caso, quindi appena arriverai a casa mi piace sulla pagina Face. Certo. Sai che sono veramente preoccupato. Stramaccioni, vuoi sentirlo? No, perché ho messo tutte le energie che avevano fino a non mollare niente. Sì, no, era perché ti ripeto, secondo me in un momento così una squadra che prende quell'1-2 che avevi aspettative diverse all'inizio della gara, potevi rischiare anche di avere un calo molto più evidente di quello che c'è stato, perché abbiamo avuto anche la palla del 3-2, poi Palacio ha avuto sempre. Vabbè, ragazzi, no, sono preoccupato perché secondo me se va avanti così altri 4 minuti di intervista si mette a piangere. Sì. È che sono i momenti topici di Sky Sport, cioè nel senso il primo allenatore che arriva viene inchiodato lì fino a quando non arrivano gli altri, no? E quindi cioè, tu vai lì e puoi parlare per mezz'ora, cioè perché della prima mezz'ora nessuno esce, insomma. Comunque sono arrivati gli SMS 349-238-6666 e mi chiedevo, parlerete di Formula 1? No, basta chiedere. No. Cioè, basta il badminton per oggi, no? No, adesso non è che possiamo stare dietro a tutto. Sì, parleremo, qua ci sarà la Formula 1, marzo, parleremo certo. Della Formula 1. Nel frattempo però parliamo di tennis, perché Fognini è sul 2-0, ha portato a casa i primi due game contro Dodig nell'incontro decisivo per il primo turno della Coppa Davis. Sbaglio, Novellino, ho un pochino il dente avvelenato con Stramaccioni. Perché? Perché per caso è stato esonerato per causa sua? No, perché Novellino non ha mai allenato l'Inter e quindi non ci sono problemi da questo punto di vista. E non è stato esonerato Novellino, ma no, c'era quel discorso che abbiamo fatto prima, il fatto che gli allenatori che hanno fatto la gavetta magari vedono un po' male questi che arrivano all'ultimo momento e improvvisamente vengono proiettati su una panchina di Serie A, tra l'altro prestigiosa come quella dell'Inter. Ridatemi Eto'o e Schneider, poi Pelé, Maradona, sì, e poi dopo passiamo tutti quanti gli altri, insomma. Intanto 18 pari, 18 pari. Pari l'Italia con la Francia, entusiasmo sulle tribune dell'Olimpico, Martin Castro Giovanni che dà dei gran baci in giro, siamo al 58esimo minuto, 18 pari fra Italia e Francia, stiamo parlando di rugby, la prima partita del Sei Nazioni. Non so se avete presente Mastro Giovanni. Martin Castro Giovanni che dà dei baci, che manda i baci. Cioè, voglio dire, sempre meglio ricevere dei baci da lui che altre sì, cose. Beh, no, adesso non vorrei drammatizzare su questo punto. C'è stata questa scena in cui hanno tentato di fermarlo, ma lui è andato avanti come se niente fosse, schiacciato la palla in meta, quindi siamo 18 pari al 58esimo. Adesso poi ci sarà il calcio di trasformazione, quindi 19. Portiamo adesso, un po'. No, cosa c'è adesso? Aspettiamo a vederlo questo calcio. Non avevo? No. Ho sbagliato? Sì. Attendiamolo. Non sai com'è la superstizione del rugby? Poi se viene qua Castro Giovanni che sa che hai detto 19. Attenzione, perché altre domande, ma parlerete anche del campionato mondiale di curling? Sì, quello sì, parleremo del curling, che in questo è rimasto stupito anche Giovanni Greco. Giovanni, che tu del curling non ti piace? Non tanto. Non ti piace il curling? cioè certo, cioè tu col badminton, cioè capito, cioè quella era solo che si gioca sulla spiaggia, adesso Giovanni, cioè diciamocelo chiaramente, su questo. Perché sì, Carli non ti piace? Perché non mi appassiona. Si scivola. Perché fa freddo. Non te ne frega niente del curling. Però parleremo del campionato mondiale di curling. Sì. Pensate che c'è gente appunto che va in giro per il mondo a giocare a curling. E quindi che una delle c'è gente che va anche in Uganda a giocare a badminton, tra l'altro. Questo non ci credo, guarda. No, l'ho sentito sulla radio, ma non è una balla. Sergio, ti è andata bene. Perché l'ha trasformato il calcio. Quindi 20 a 18. Vabbè, ragazzi, ma quello era particolarmente facile. Sì. È arrivato Montella nel frattempo. Volete sentirlo? Sentiamo. Guarda come è sorridente Montella. Sul campo, ma anche gli altri risultati vi sembra, no? Che non siano stati malvagi, sì, per oggi voi. È una giornata favorevole, certo. Siamo ancora lì, nonostante venissimo da un mese molto difficile. Questo testimonia quanto di buono sia stato fatto prima. Sì, o quanto il campionato aspetti tutti, insomma, in questa stagione. O quanto sia difficile il campionato italiano. Certo. Emanuele Ballettini. E la vediamo adesso la classifica. Ecco qua, sì, la classifica, la diciamo. A 4 punti dalla Lazio, terzo posto, a 3 punti dall'Inter. Abbiamo chiesto se fosse solamente già detta un lui, caso. Praticamente. Vabbè, diamola tutta, vai, dai. Diamola tutta. La Juventus è a 52 punti, poi c'è il Napoli a 49, la Lazio che è a 43, l'Inter si ferma a 40, la Fiorentina sarà a 39 punti, poi c'è il Milan che giocherà questa sera con l'Udinese a 37, il Catania a 35, la Roma a 34, Udinese 33, Parma 31 punti, a 28 punti ci sono Torino e Chievo, l'Atalanta sale a 26 punti, a 25 Sampdoria e Bologna, 24 punti per il Cagliari, 21 punti il Genoa, 20 il Pescara, 17 Palermo e Siena. Vedo malissimo il Palermo. Perché? Così, perché è giù, cioè Siena aveva 6 punti di penalizzazione, Giovanni, ha già raggiunto il Palermo. È messo male quest'anno, è messo molto male. Molto male. Lì colpa di... Di a parole tue. No, vai, esprimiti. È dura, qua. Adesso dire di chi è la colpa. La campagna acquisti è stata un po' così. Tentata. Più campagna vendita, insomma, in questo caso. Se proprio vogliamo entrare nel merito. Senti, ma una stagione di un giocatore di badminton. Abbiamo visto adesso che tu, quando è che vai esattamente in Uganda? Tra due settimane. Quante volte vai all'estero, dov'è, in che zone del globo giri? Perché se vai in Uganda immagino andrai in giro anche da altre parti. Sì, diciamo facciamo tutti i continenti. Ah, tutti i continenti? Sì. Perché è un gioco diffuso in particolare in che paesi? Quali sono i paesi forti? In Asia, soprattutto in Asia. Cina, Corea, Indonesia. Ah, quindi diciamo il sud-est asiatico e i grandi paesi dell'est asiatico. E i giapponesi come sono messi col badminton? Bene. Anche loro, anche sono, loro bravi. Sono forti. Ah, okay. Sì. E quindi quante volte vai all'estero tu in un anno? Più di 10 volte. Più di 10 volte. Hai capito, si gira. Per favore, fate aggiornamenti. Sei nazioni Italia-Francia, in auto non ci siete che voi. Allora, 61esimo minuto, siamo Italia 20, Francia 18. C'è stato pochi minuti fa la meta di Martin Castrogiovanni e poi la trasformazione di Orchera. Quindi 20 a 18 per l'Italia, siamo a 20 minuti dalla fine di questo Italia-Francia. Comunque ce la stiamo giocando molto bene. Resteremo degli intertristi, ci scrivono sul nostro SMS 349-238-6666 e vabbè, rimarranno intertristi. Questo non so cosa voglio dire, mi intristisce anche a me pensare già di dover scrivere una frase di questa portata, insomma. È un momento difficile per i tifosi del Senti Montella, zitto. L'operazione qualità-prezzo. No, questo non è Montella, sì. Però adesso arriva. Però, così magari ci aggiorni anche sul ritorno dell'attaccante. Sì, no, c'è un progetto a lunga scadenza, insomma si parte dalle fondamenta. Naturalmente il mercato di gennaio è stato principalmente basato su giocatori anche in prospettiva, anche per il prossimo anno. E Rossi sicuramente è uno di questi e noi ci auguriamo di poterlo avere nella parte finale di questo campionato. Per il resto non ho ancora visto perché è ancora in America a fare la rieducazione, a riabilitarsi e mi auguro che arrivi presto a Firenze così inizi anche a... Ce lo iniziamo un po' a gustare pian pianino. Sì, perché ricordiamo Pepito Rossi che si è rotto il legamento crociato del ginocchio per due volte consecutivamente, sta facendo la riabilitazione negli Stati Uniti, è venuto soltanto per farsi vedere dopo aver firmato il contratto a Firenze, ma poi è tornato negli Stati Uniti dove fa tutta l'attività di palestra. Qual è l'infortunio più classico del badminton, Giovanni? Rottura del crociato. Ah, anche lì? Uh-huh. Ah, però. Non dirlo con quel tono lì incazzato, cioè, non è colpa nostra. Non è una bella domanda, dai. No, è brutta, sì. Cioè, senti, tira su le mani dal tavolo. Ancora una volta, voglio dire, che giornata. Cioè, hai vinto a mani basse d'altra parte, diciamolo chiaramente. Che ha anche perso, Sergio, perché questo sembra un campione che non ha concorrenti in Italia, ma in realtà ha anche perso nel doppio maschile. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Aggiorniamo i risultati, perché mentre stiamo parlando accadono anche altre cose. Accade che ancora il rugby è ancora tutto fermo. Siamo 20-18, 66esimo minuto. C'è una mischia nella zona di difesa francese. La palla è al numero 21 francese, sta mettendo la palla in mischia, Parra. Comunque 20-18 per l'Italia. Poi? E poi abbiamo la Coppa d'Africa. Quarti di finale, Costa d'Avorio-Nigeria 1-1. Chi vince in semifinale troverà il Mali, che ieri ha battuto il Sudafrica. Ecco. Vabbè, insomma, è un po' depresso, diciamo, su questa cosa, un po' così. La Nigeria non dice che non... No, mi ha depresso un po'. Non è niente di grave, però ricordiamo che abbiamo qua il campione italiano di badminton, esatto. Che vorrei averlo qua tutti i giorni. Anche perché lui andrà in Uganda. E che tra l'altro ci fanno delle domande specifiche proprio su quello che accade nel badminton. La città invece è badminton, tra le altre cose. Quanto guadagna un giocatore di badminton? Intanto guadagna, perché... Ecco, no, questo non c'è scritto. Stavo leggendo un sms, quindi non metterci del tuo. Ricordiamo, sms al 349-238-6666. Avete qua Giovanni Greco, campione italiano di badminton. Potete chiedergli tutto. Che secondo me non guadagna, però. Ecco, vabbè, allora. Ah, non guadagniamo quanto Ibrahimovic, quello è sicuro. No, e fino a qua ci siamo. Poi andiamo più giù. Voglio dire, andiamo per volta, andiamo a prendere, non so, tipo un giocatore del calcio che non prendiamo il calcio. Abbandoniamo il calcio. Dai, più o meno c'è indicativamente. Più del curling, ma meno del tennis. Ecco. Siamo lì. Questa cosa qui. Ma diciamo, una parte dei soldi arriva, immagino, dalla federazione, sì, giusto? Sì. E poi avete dei premi quando vince tu. Ad esempio, se tu vai in Uganda e vinci il torneo, hai dei premi in denaro? Sì, la federazione ha messo dei premi. Ah, la federazione. In più, se vinciamo il torneo, c'è il montepremi del torneo. Esatto, quindi c'è il montepremi. Ma quindi ci provi, insomma, a questo punto. Il biglietto per l'Uganda lo paghi tu o te lo pagano? No, loro? Ringrazio la federazione. Ma come sei messo a livello mondiale a questo punto tu? Ci vai o no a Rio? Dai, cioè, ancora è lunga, cioè c'è ancora tempo. Ecco, quindi vediamo. Il che vuol dire che hai perso dove la tua posizione, cioè che posizione sei in questo adesso non sei tanto giù. Bene. Sei giù, no, cioè, ecco. Nel frattempo la Nigeria ha raddoppiato con la Costa d'Avorio, Così. La Costa d'Avorio sta perdendo. Sì. 1-2. Ecco, adesso Luca, dovresti poi da adesso in avanti trattare bene Giovanni Greco, perché se no non torna, poi magari vincerà, però non tornerà più perché gli facciamo sempre le domande che lo mandano tutti in depressione. Però da badminton, cari ascoltatori, partiamo e andiamo direttamente al rugby, che diamo l'aggiornamento per quanto quello che sta accadendo a Roma. 68esimo minuto, 20-18 per l'Italia. L'Italia sempre in attacco con la palla a Paris che stava spingendo. Comunque sta giocando bene l'Italia. Ma parliamo con Antoine Guitton, che è tra l'altro, parliamo di rugby. Diciamo un rugby un po' particolare, eh? Non immaginatelo con l'erbetta, con il pallone ovale, è una cosa un po' diversa. Rugby subacqueo. Rugby sub Milano. Esatto. Parliamo di rugby subacqueo. Sì, perché esiste uno sport, una disciplina sportiva, si chiama rugby subacqueo, ci facciamo descrivere da Antoine cos'è. Sì, volevo soltanto dire, Greco, il nostro campione italiano di badminton, è godutissimo, finalmente ha trovato uno sport che è più sfigato del badminton, questo volevi dire. Esatto. No, Antoine, come stai? Bene. Tutto bene? Sì, sto guardando la vittoria dell'Italia sulla Francia. Scusa, fammi capire, dal tuo accento mi sembra di capire che tu non sei originario di Melzo o zone limitrofe. Esatto, esatto. Ecco, tu sei... Non la vivo bene, però dai. No. Perché è benissimo l'Italia. Ecco, se ti avesse telefonato una radio francese avresti detto sta andando male, peccato. Va bene, diciamo. Ognuno si adatta. In questo caso la radio è Radio 24, quindi sei contento di quello che sta accadendo. Tra l'altro mi sembra un evento storico da questo punto di vista, no? Cioè stiamo andando, non dico a vincere perché non si dice, no? No, non si dice. Tra l'altro aggiorniamo il risultato, c'è stato un piazzato dell'Italia, quindi siamo 23-18, 69esimo minuto in questo momento, 23 Italia, 18 Francia, grazie a un piazzato che ci ha dato altri 3 punti. E Antoine non l'ha presa bene, mi sembra di capire. Come l'hai presa malissimo, giusto? No, sono contento. Sei contento, vabbè. Antoine, adesso tu dovresti parlarci del rugby subacqueo. Ma dai, no. Esatto. Ecco, tu sai che è un compito difficile, voglio dire, cioè, devi giusto cercare di convincere almeno, non dico tante, ma 1, 2 o 3 persone, no, che il rugby subacqueo ha un senso in questa nazione. Dici? Ha un senso perché è uno sport bellissimo, è uno sport che si gioca in apnea che ha tantissimi contatti fra le persone. Poi è uno sport misto, quindi per forza può piacere alla gente. Giochiamo sia donne e uomini assieme, e giochiamo nella parte fondale della piscina con le pinne e una palla riempita d'acqua. Ah, quindi c'è questa palla riempita d'acqua che immagino stia sul fondo, giusto? Esatto, va a fondo. Ecco, e quindi in apnea dovete spostare questa palla, poi un altro in apnea tenta di fermare gli altri giocatori e c'è una zona di meta all'interno della piscina? Ci sono 2 canestri ad ogni parte della piscina che vengono protetti da un giocatore che fa il ruolo di portiere, che tappa il canestro. Scusa, poi ci sono altri 2 ruoli nella squadra, che è difensore e attaccante. Ah, e il portiere sta sotto a presidiare la porta e quando respira? Allora, ogni ruolo è coperto da 2 giocatori, quindi quando uno è giù, l'altro respira. Poi una volta che ha fatto 3 respiri, scende giù, dà il cambio e l'altro giocatore risale a respirare. Scusa. E questo per tutto il tempo della partita. Scusa, con 3 respiri quanto stai giù? Ma non hai bisogno di stare tanto tempo. Quello che conta è di scendere al momento giusto e di stare, 10 secondi al massimo, però spesso anche di meno. Quello che conta è di tenere il ritmo col tuo partner, col tuo compagno. Col compagno di ruolo. Non lasciare mai il ruolo vuoto. Il compagno di ruolo che mentre tu sei giù, che stai diventando un po' viola, quello è sopra che respira, giusto? Esatto. Però 10 secondi è facile, cioè 10 secondi lo facciamo tutti. Alla fine non c'è bisogno di essere apneista, c'è solo voglia di tanta grinta, tanta voglia di prendere la palla all'avversario e 10 secondi, di toccare, di divertirsi. 10 secondi in apnea sono quelli che ho avuto oggi quando ho visto il gol di Matri, io, per esempio. Esatto, sono rimasto stupito, no, del fatto che Matri sia riuscito a mettere dentro una palla, e quindi sono rimasto lì senza respirare. Poi ho detto, respiriamo, e ho fatto un sospiro di sollievo in tutta questa vicenda. Senti, ogni volta che mettete... Fanno i 10 secondi se vince l'Italia. Ogni volta che mettete la palla nel canestro, cos'è? Un punto o è diverso? No? Un punto? Sì, è un punto. E le partite più o meno quanti gol finiscono? Cioè, una partita normale, qual è il risultato classico? Ma per dire, i finali del campionato del mondo sono finiti a 2-1, per dire. Ah, quindi difficilissimo fare gol. Cioè, gol meta, punto. Com'è che ve lo chiamate? Gol meta, punto. Sono sempre su. Il portiere. Come i campionati del mondo, cioè, il portiere e tu sei sotto l'acqua. Ci sono anche dei campionati del mondo, cioè pensavo quante squadre ci sono in Italia, cioè viene organizzato un campionato? Sì, in Italia siamo pochi perché siamo 4 squadre. E invece nel mondo? Però c'è un campionato. Nel mondo c'è un campionato del mondo, ci sono tantissime squadre. Per dire, in Germania ci sono 3 lighe, 3 Bundesliga. Tre campionati la nazionale separati. Femminile, la nazionale under 21, c'è tutto un campionato, tutto un giro, ma anche in Italia c'è una nazionale italiana e una nazionale femminile. Ecco, volevo sapere a questo punto, puntate direttamente a Rio, cioè alle Olimpiadi? Certo. Se ci invitano, noi vediamo, figurati. Oh, vabbè, insomma, in qualche, anche perché in quattro, voglio dire, cioè, ve la giocate, no? Voglio dire, non è che bisogna... Quattro squadre in Italia, non è che siano tantissime. Per caso voi siete campioni d'Italia in corso? Oppure? Come? Voi avete il titolo di campione d'Italia e siete riusciti a perdere con le altre tre squadre? No, che esistono? No, ma i campioni d'Italia è la squadra di Firenze, che sì, è bravissima. Ah, ecco. Ho capito, voi siete arrivati... Noi siamo terzi. Ah, terzi. Beh dai, 3 su 4. Ho capito, va bene. Sì, infatti, però sì, siamo sul podio. Senti, abbiamo citato... Quindi niente boccaglio di legno, insomma, in questo caso. Esatto. Abbiamo citato Firenze, no, Milano... Facciamo tanti allenamenti per riuscire a guadagnare un posto. Certo, finché non ti crescono le branchie. Senti, Firenze, Milano, le altre città in cui si gioca, tanto per avere un'idea? Napoli. Sì. E basta, Prato. Ah, Prato. E una volta si giocava anche a Roma. Sì, ma poi basta. Poi Roma, poi Roma basta. Adesso anche a Como c'è una squadra che si sta lanciando. Sì, ma adesso hanno esonerato Zemma, magari si torna a giocare anche a rugby subacqueo a Roma, vedrai, perché cambia tutto a Roma adesso. Non ti preoccupare. basta che facciano, che aprono le piscine. Senti, comunque tutto questo ha un senso secondo te? Cioè, bisogna farlo perché? Cioè, perché mi deve esistere il rugby subacqueo? Perché è uno sport molto, molto agonistico e che risponde a, manca questa offerta, questo sport, perché se tu vuoi fare sport in acqua, se ti piace l'acqua, cosa fai? Pallanuoto? Però c'è solo il pallanuoto se vuoi giocare con una palla sott'acqua. Quindi ho capito, quindi avete dato un po' di varietà, perché sennò ci si annoia là sotto. Va bene, grazie Antoine! Esatto. Forza Italia! No, va bene. No, dico perché Italia-Francia, voglio dire. Ciao Antoine, un'ultima domanda: 23-18 Italia-Francia, come finisce? Ma vince l'Italia per forza, sta migliorando di anni in anni. Grazie, ciao. Ciao. Bene, allora torniamo a noi. Vuoi sentire? No, Petkovic intanto dirà che è stata una partita sfortunata, che la Lazio, la squadra era preparata, purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato. Puntiamo alla Coppa Italia, alla fine della fiera. Vabbè, insomma, in questo passaggio. Però diamo ancora risultati, l'Italia sta trionfando. No. Sta moderatamente vincendo in questo caso. Siamo 23-18, 75esimo, però siamo sempre nella zona di difesa francese, siamo sempre noi che attacchiamo, riusciamo a tenerli distanti dalla nostra zona di meta, quindi bene, direi, perché se non arrivano alla zona di meta non possono né calciare né fare meta, certo. Mi verrebbe da dire, no? Ah, però non ti sfugge nulla. Voglio essere tecnico. È un po' più friabile la tua preparazione sul badminton. Ti dico di più, che noi abbiamo fatto più ricicli veloci riusciti della Francia. Ecco. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così! Per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Restiamo sul rugby proprio in questo momento, perché ricordiamo siamo al 79esimo minuto, manca un minuto e mezzo alla fine, poi quando il pallone uscirà dopo l'80esimo verrà fischiata la fine da parte dell'arbitro. La Francia è in attacco, ci sta proprio spingendo, siamo a circa 10 metri dalla linea calmini, di meta, ragazzi, infatti cioè... attenzione perché è pericoloso, sì. 23-18 per l'Italia, 78 minuti e 43 secondi. Ecco, diciamo che in questo momento qua è l'ultimo tentativo francese. Forse l'unico che potrebbe poi dargli la vittoria in questo caso, però gli italiani riescono in qualche modo a bloccare il tutto, ma ancora mischione. Eccoci qua. A cosa? No, palla per l'Italia, è stato fischiato un fallo. Vediamo cosa c'è. No, palla per la Francia. Rimessa laterale, rubiamogliela. Quindi la tua A di sollievo è stato inutile, diciamocelo. C'è stata anche una ammonizione per un giocatore italiano. La nostra attaccata andava liberata. però sai è facile, è facile, dirlo, sai, facile. Mi sa che la buttano dentro. Tiro? Questo è stato ma tanto non, con tre punti di trasformazione andrebbero 23-21, quindi non gli serve, capito? Quindi perché ricordiamo ancora il risultato. 23-18, 79-21, 23-18 per l'Italia. Stanno decidendo, vanno in mischia i francesi perché devono tentare di mettere la palla in meta. Hanno 5 punti, con un calcio piazzato farebbero 3 punti, quindi non gli servirebbe a niente. Perciò stanno decidendo adesso la tattica, sono tutti lì, sai, accucciati. L'arbitro stanno discutendo, stanno discutendo la tattica. Faccio io? No, fai tu. No, vai tu. No, la solita tattica. Adesso entra una montagna di carne italiana. Che... umana, tra l'altro, ricordiamo, cioè non era Ghirlandini, veramente, cioè, che secondo me ha ragione lui, esatto. Comunque in qualsiasi, no, ha delle caso. Braccia che sono grandi più o meno come le cosce di un essere umano normale, sì, il braccio, per dire. C'è Parisse che in questo, il capitano, sta parlando con l'arbitro. Mischia per la Francia, 79 minuti, manca un minuto alla fine. Aia. Poi bisognerà soltanto prendere la palla, buttarla via in touche, distante, via fuori da qualsiasi parte, purché non sia in campo, portarla o rapirla direttamente. Esatto. In questo caso, no? Scappare. Ecco. C'è uno che c'ha un pelo in mezzo ai denti, quindi se lo toglie, probabilmente un filo d'erba. Ecco l'arbitro che chiama la mischia in questo momento. Ci si prova in questo caso, però ancora tutto fermo, c'è tensione ovviamente dell'aria. Dalla parte di là, Derbyshire a placcarlo. Paul Derbyshire, ma la salita di Masi sarà fondamentale. Masi a difendere la catena. Assieme a Sgarbi a Canale, si allarga il mediano di mischia francese, avanzano. Niente, non si muovono, no, non si muovono. Sta spingendo la mischia francese, ci riconquistiamo palla. Voilà. È fatta. No, 79-30. No. Calcio contro. Ma come calcio contro? Calcio contro. Ah, perché hanno girato? Devi tenere la mischia dritta, ha detto. Devi tenere la mischia dritta. Corretta, ci sta. Forza. Forza Citta, ancora, sofferenza pura ancora. Citta, tieni sulla faccia Citta. Citta sarebbe pura. Cittadini, per chi non lo sa, un giocatore, sì, della nazionale, sì, sì. Per gli amici Citta. che si era messo con le mani, sai quando ti metti con le mani appoggiate alle ginocchia perché non ce la fai? Esatto, è andato. D'altra parte mi sa che lo sforzo è totale. Allora, il tempo è scaduto, tempo rosso, 80 minuti e 06 secondi, se riusciamo a conquistare palla, a buttarla in touche, abbiamo vinto. Sì. 23-18. Forza Italia! Ah, proprio così, una radiocronaca così sobria ed elegante. Ben ingaggiato. Beh, finita, basta, no? No, ancora Francia. Bastarò, raddoppiato il placcaggio, fermato, 5 metri dalla linea di meta. Grande Italia. Dobbiamo resistere ancora. Bisogna buttarli fuori dal campo. Fermato il pallone, 2 metri dalla linea di meta. Dawi Fenua, il pallone è perso, va indietro. Mamma mia. Niente, c'è Muschione, niente, ancora lì vicino, niente. Però c'è a 2 metri dalla meta. Esatto, i francesi continuano a premere. Ricordiamo, il tempo è formalmente scaduto, ma finché la palla non esce, non viene fischiato un fallo, si continua a giocare. Siamo veramente a 3 metri dalla linea di meta. Spingono i francesi, riaprono verso il centro del campo. Hanno tirato indietro, in questo caso siamo a 20 metri, in questo caso, ma nulla, non riesce a passare. Bisogna tirarli fuori dal campo, fuori la palla, è uscita! Fuori, è uscita! Abbiamo vinto! E ha vinto l'Italia! Abbiamo vinto! Vince l'Italia, 23-18! Dalla Monte Grappa al Monte Tomba! Cosa c'ha? Cioè, è rimasta la prima guerra mondiale. ancora lì, in questo caso ha vinto l'Italia, in questo caso è, diciamolo. Cosa si fa? Prima guerra mondiale, è rimasto lì. Alberto, pronto, Alberto? Pronto! Ciao, abbiamo fatto la diretta, hai visto? Buonasera. Hai vinto buonasera. Insieme alla nazionale. Pronto? Pronto, ci senti? 1, 2, 3, prova, eccoci qua. Alberto. Sì, buonasera. Allora, devo fare una breve analisi, appunto, sono un tifoso interista sulla sconfitta dell'Inter. Ah. Scusa, Alberto. Scusa, c'è l'Italia che ha vinto, tu parli dell'Inter. No, è l'analisi di Alberto. L'analisi di Alberto. Ok, Alberto analizza, vai. Ma sinceramente del rugby non è che mi interessa molto. Ho capito. Però sai. Provo Francia, a dire la verità, perché insomma... Come ti fai Francia? Ti fai Francia? Come ti fai? Alberto? Vabbè, insomma, dai. Sono momenti così, tu, no? Cioè, sei rimasto... momenti così, sai, certo. Perde l'Inter, allora. Certo, sì. E quindi tifi Francia, perché ce l'hai con gli italiani, insomma, ho capito. No, vabbè, dai. Siete strani voi interisti, Vabbè, dici. Due cose, cioè, sì. Voglio dire, adesso sentivo parlare ancora del possibile lavoro non dato, del quel presunto fuorigioco del Siena, ma siamo una squadra scarsa. Cioè, l'allenatore va cambiato immediatamente. Ah. Io vorrei Zenga. Zenga? Zenga. Sai quello che parava una volta nei Zenga? Sì, Zenga. Che quello. Palmarès ha Zenga nel, dal punto di vista del allenatore? Stramaccioni, qual è il palmarès di Stramaccioni? Ah, non dirlo a me, se voi che l'avete preso, mica io, scusa. Poi voglio dire, una cosa che deve vendere, Moratti dovrebbe vendere, ma non c'è nessuno che compra, un altro inghippo, perché Moratti se trova da vendere, vende. Chi è che deve vendere? Scusa, può vendere degli immobili adesso, perché mai è finito il mercato, quindi non può andare oltre in questo caso. Poi mi sembra che abbia... mi sembra Alberto, scusa Alberto, mi sembra che abbia venduto. Ha venduto Schneider, ha venduto Coutinho, cioè se ancora, vende ancora un po', cioè giocate con il massaggiatore. Ma no, ma dai, se non avevo uno sceicco qua, ho capito. Se non avevo qualcuno, cioè, veramente una delusione totale. Io diserterei lo stadio. Io sono per la contestazione domenica. Poi, Perfetto. Un cane sciolto, non appartengo a nessun club. Bravo. Quindi, vuoi. Quindi l'analisi di Alberto possiamo riassumere: deve arrivare uno sceicco, vendiamo e contestazione. Queste sono le linee dell'analisi di Alberto, giusto? Sono le tre tesi che porto avanti. Speriamo che mi ascoltino. Senti, grazie, Alberto. Se apri un sito, avvisaci che andiamo anche noi a vedere. Okay. Grazie, Alberto. Ciao. E sentiamo invece che cosa sta accadendo ancora lì a Roma, perché la vittoria dell'Italia è una vittoria totalmente storica. Io penso che dall'inizio eravamo molto forti mentalmente e pensavamo e volevamo vincere questa partita a tutti i costi. E penso che chi è? È Luciano Orquera, quello che è stato eletto il miglior giocatore di questa partita Italia-Francia. Ricordiamo, ha vinto l'Italia nel rugby 23-18. Questo è Luciano Orquera. Sono veramente contento. Siamo primi in classifica nel torneo. Grazie mille. Ha giocato una partita. Ha detto siamo primi. Sì, ha detto siamo primi in classifica. No, Luca, era una battuta ed è detto hai capito. No, certo. No, è vero, perché ha vinto l'Inghilterra con la Scozia, ha vinto l'Irlanda col Galles, ha vinto l'Italia con la Francia. Siamo un po' a pezzi perché c'è uno che c'ha la borsa del ghiaccio sulla caviglia, l'altro che c'ha il ghiaccio sul braccio. Rugbisti all'ascolto. 800 24 00 24 800 24 00 24. Rugbisti all'ascolto che non sono andati ovviamente a Roma, perché questo è poi quello che... Oppure magari quelli che sono a Roma e stanno uscendo, che arrivano in macchina e accendono subito la radio. Raccontateci la vostra esperienza. E vanno a Vittorio Veneto. Esatto, tutti a Vittorio Veneto. Tutti a Vittorio Veneto. Sul Monte Pelmo a difendere il confine. Ma perché si andava a Vittorio Veneto, scusa? Tutti lì, a Vittorio Veneto sul Monte tutti Pelmo. Tutti a bere lì. Cioè, esatto. Tutti abbassano le grappa. E via. Esatto. E dico abbassano le grappa non a caso in questo caso. Non si immaginare come giocheremo la prossima, perché stanno uscendo veramente come dopo, dopo la ritirata di Caporetto. Erano più o meno nelle stesse condizioni i militari italiani, quindi ecco, c'è uno che c'ha un cerotto sulla testa, l'altro c'ha la borsa del ghiaccio sulla caviglia, vabbè. Allora 824 0024, 824 0024, due cose stanno accadendo in questo caso, questo evento clamoroso, e cioè l'Italia che ha battuto la Francia, e quindi diciamo che intanto già abbiamo perso attenzione, il cucchiaio di legno potremmo ancora vincerlo, perché va alla squadra a chi arriva ultima. Di sicuro non beccheremo quell'altro premio di quelli che perdono tutte le partite. La forchetta di... non lo so che cos'è. Di pasta frolla. In questo caso, quella lì noi non porteremo a casa quella, perché intanto una partita è stata vinta, quindi c'è un altro premio da questo punto. Sento dell'entusiasmo da parte del nostro campione italiano di badminton, ricordiamolo, tra l'altro Gianni Greco, dici delle cose belle. Questo. Si è emozionato almeno un sì, po'. Sì, sono contento che l'Italia abbia vinto. Senti, ma tu oltre al badminton e un po' al calcio, perché abbiamo visto che sei un pallido tifoso calcistico, che altri sport segui? La Formula 1. Ah, hai visto? A marzo visto? Quando tu che ci hai mandato l'SMS prima, esatto. Che ci hai chiesto, dovete seguirete la Formula 1. Sì, seguiamo la Formula 1 con moderazione, no? Con tutti gli sport che sta mandando in questo caso. La campagna che sta facendo su Sky, che in realtà deve soltanto avvisare che sta avvisando che cosa? Che è cambiata rete. Vabbè, dai, dobbiamo liberiamolo, dai, che è stato qua fino adesso, Giovanni Greco, ricordiamo, campione italiano di badminton, qui con noi da ore ormai, dobbiamo un po' lasciarlo andare, deve andare a festeggiare, perché quando è che ha vinto il campionato italiano? 2-3 ore fa. Un poco prima dell'Italia contro la Francia, giusto? Sì. Ecco, quindi, vabbè, ricordiamo il punteggio? 21-10, 21-19. Un po' sofferta la seconda partita del badminton. Sì. Ricordiamo che adesso sta partendo per l'Uganda. Abbiamo scoperto che tu 2 anni fa, quando sei andato l'ultima volta in Uganda, hai fatto medaglia d'oro nel doppio e sei arrivato terzo nel singolo. Quindi abbiamo delle speranze, esatto, in Uganda. Speriamo quest'anno di fare 2 ore. Dai. Ah, ecco, bravo. Ecco. Allora ci chiami poi dall'Uganda e ci racconti. Puntiamo i 2 ore e noi puntiamo ovviamente a sentirti quando sarai in Uganda. Grazie per essere venuto qui con noi. Dai, vai. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille. A presto. Ciao. Beh, intanto torniamo invece sul trionfo di oggi qui diretta, non qui da noi, a Roma, dell'Italia sulla Francia. Stiamo parlando di rugby e stiamo parlando di un risultato che è appunto 23-18 per l'Italia. Abbiamo battuto i francesi, la seconda volta che succede che li battiamo. Era già successo nel 2011, quella volta mi ricordo che i francesi l'avevano vissuta molto male, c'era un sapore, una voglia di vendetta e di rivincita dopo la sconfitta precedente, ma anche stavolta tornano a casa con le pive nel sacco. Beh, adesso messa così brutta, nell'arco di tanti incontri ci hanno dato una quantità di punti che non finivano più. Noi andiamo a commentare il tutto con un nostro inviato speciale, tra virgolette, perché è lì, collocato a Roma. Esatto, era stato un nazionale italiano, Jean-François Montariol, di origine francese, terza linea, ha giocato nel Rovigo, anche nel Venezia Mestre, nel Tolosa. Lo abbiamo al telefono in collegamento, non sappiamo se sia ancora allo stadio, sia già uscito dallo stadio olimpico. Montariol, buonasera. Buonasera, sì, sono ancora fuori dallo stadio, là c'è un grande casino per festeggiare la vittoria dell'Italia. Lei non festeggia però, perché è un po' più francese che italiano, o un po' festeggia? Ma oggi sono metà, comunque che l'Italia ha vinto oggi, sì, perché c'è un bel evento anche con tutti gli ex nazionali. Avevo visto un'Italia molto solida, hanno fatto una bellissima meta al primo tempo, non mi si sono in difficoltà, vuota difesa, e veramente ho giocato molto bene, si vede che in azioni è molto positivo quest'anno con Jacques Brunel, che fa un bel lavoro. Ma quindi vittoria meritata, possiamo dire? Sì, vittoria, sì, meritata, vittoria meritata. Sì. Senta, lei è di origine francese, come verrà vissuta questa seconda sconfitta della Francia in Italia? In Francia come sarà durissima per i francesi, perché non volevano sbagliare la prima parte del torneo. E lì una sconfitta in Italia rimetterà molto più dubbi nella testa di Zembanoe, e sarà molto difficile adesso vincere queste nazioni, perché l'obiettivo della Francia è vincere queste nazioni. Esatto, annunciato molto male. Ricordiamo che l'allenatore francese alla vigilia aveva detto che il loro obiettivo era proprio quello di vincere tutte le partite, iniziando da quella dell'Olimpico. Mi sembra che la partenza non sia stata delle migliori. Sì, l'obiettivo era di vincere tutte le partite, quindi molto negativo stasera. Hanno avuto molti punti, molto pochi punti, l'estremo Ruggier non ha giocato bene, Michel neanche, hanno fatto casino in touche, questi palloni del gioco, ma vittoria veramente meritata dell'Italia. Ecco, non è che adesso cominciamo anche sul rugby, cioè questa storia, perché già voi ci avete un po' il dente avvelenato con l'Italia nel calcio, no, voi francesi, adesso ce l'avete anche un po' sul rugby, visto che non vi faremo vincere le 6 nazioni? Non ho capito, scusa. Visto che avete già il dente avvelenato per quanto riguarda l'Italia sul calcio, no? Non è che adesso i francesi ce l'avranno ancora di più, visto che non vi faremo vincere sicuramente le 6 nazioni con questa sconfitta, giusto? Sì, esatto, che c'è sempre una rivalità, come siamo un po' cugini noi, facilità dagli italiani. Adesso dobbiamo stare zitto, perché oggi è più forte in Italia per oggi, quindi anche a rugby, che fino adesso la Francia è stata molto meglio sempre, però con le due franchise che sono nel Celtic League si vede la differenza, che i giocatori sono sempre confrontati alle passate alto livello e si vede il risultato. Ecco, senti, la cosa che noi abbiamo visto dalla televisione è che c'era però una quantità, uno spettacolo incredibile anche sugli spalti. Questo comincia, sì, a dire... Sì, è un evento molto bello qua, anche fuori dallo stadio, tanti spettacoli. Stamattina i bambini che hanno giocato fuori, il campo là dietro. È molto bello per la rugby italiana questo nuovo momento che sta crescendo, e speriamo che la volta dopo lo stadio sarà ancora più pieno. È veramente molto importante per la scuola che tutti i tifosi spingano così dietro di loro. Ecco, Montariol, adesso nelle prossime partite abbiamo altre speranze, oppure noi come Italia abbiamo chiuso con le vittorie a 6 nazioni? No, assolutamente, che c'è ancora speranza. Con chi? Le più solo sta in Inghilterra e in Irlanda, poi con il Galles e l'Italia se la tocchiamo. La Scozia, scusa, Galles e Scozia se la tocchiamo. Ah, quindi con Galles e Scozia con la giochi. Con Galles e Scozia ce la giochiamo, mentre Irlanda e Inghilterra sono ancora troppo, troppo difficili e troppo forti per noi. Ah, possiamo farcela, però dopo la difficoltà diventa di ripetere la performance di lì, perché forse non è stato un po' di energia oggi, devono rispettare queste cose, però possiamo giocarcela con tutti adesso, però le più dure saranno in Inghilterra e Irlanda. Va bene, ti ringraziamo, ti lasciamo andare a festeggiare. Ok, grazie. Ciao. Grazie mille a Jean-François Montariol, ricordiamo rugbista di origine francese, ha giocato però anche alcune partite nella nazionale italiana, gioca nel Rovigo. L'ho sentito non particolarmente allegro. Voglio dire, questa storia adesso puoi andare a festeggiare. È un po' dura. Non ha vissuta benissimo. Secondo me non festeggia. Vabbè, non lo so che cosa faranno. Dai e vai. Non è solo calcio. Non hai neanche preso i biglietti. Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano. Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere Il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto? Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase. Noi non supereremo mai questa fase. Guarda, è fantastico questo elemento, cioè adesso c'è questa partita, ecco, negli Stati Uniti avrebbero fatto già un film. Sì, probabile, no, perlomeno sai, ci starebbero già pensando. No, ma non proprio come stile, cioè questa partita, l'Italia, la sofferenza, il pubblico, la tensione, la dedizione, insomma, questa sofferenza qua del rugby, no? Che tutti continuano a ribadire. Sì, questa cosa, metro su metro, questa spinta, sì, cioè proprio... Poi appunto tutti quanti insieme. No? Non ci sono, sì, ci sono quelli più grossi, ma che però non necessariamente sono anche quelli più gravi, sono quelli che sono i più solidi, ma non necessariamente sono quelli che sono i più atletici. No? Esatto. E quindi questo, l'unica cosa, si vince come una squadra. Che film è? Ecco, bisognerebbe però scrivere qualche cosa. Esatto, cioè, bisogna scrivere la sceneggiatura. Bisogna scrivere almeno una sceneggiatura, almeno un soggetto. Prima un testo, soggetto, un testo, poi la sceneggiatura, no? E poi riesce a fare il film, no? Ed è questo uno dei grandi problemi che ci sono, cioè, in Italia, ma anche un po' in Europa, però in Italia. Non escono mai dei film belli come quelli americani sullo sport. Ma perché mancano i soggetti? Anche i soldi, però a parte questo, no, voglio dire, mancano i soggetti. No, i soggetti ce ne sono, figura se non ci sono storie di squadre di calcio che hanno iniziato da quando ero che deboli, che non hanno mai fatto il Val di Sangro, per esempio, te lo ricordi, no? Che a un certo punto è riuscito a vincere, a fare delle cose. Il Castel di Sangro. Castel di Sangro, la ecco, squadra che ecco, era riuscita ad arrivare in Serie B, è rimasta in Abruzzo. Esatto. Sì. Però che appunto squadre deboli, ma anche, voglio dire, pensa soltanto alla storia del Chievo. Sì. Un quartiere di una città che poi diventa appunto, è fissa ormai da anni in Serie A. Ecco, mancano dei racconti, mancano la possibilità di scrivere delle storie, dei soggetti. Mancano dei soggetti, però il CONI ci sta pensando da tempo. Sì, esatto. Ci sta pensando da tempo e cominciamo però non necessariamente a fare un film, però ci limitiamo anche soltanto a scrivere, a chiedere qualche cosa, a fare un bando per quanto riguarda la parte letteraria. Ne parliamo con Danilo De Tommaso, che è dell'ufficio stampa del CONI. Pronto? Buonasera. Non so se abbiamo detto, abbiamo fatto una presentazione un po' lunga, ma per arrivare poi al sodo, cioè al fatto che mancano per fare dei grandi libri, comunque per fare anche dei grandi film, dei grandi racconti, no? Mancano poi delle persone che scrivano, no? su queste storie, anche sulla partita di oggi. Sì, assolutamente sì, anche se negli ultimi tempi il concorso letterario del CONI e il concorso per il racconto sportivo hanno avuto un incremento di partecipazione, c'è stato un progressivo aumento di opere in lizza che è cresciuto. Noi abbiamo due concorsi, il primo che quest'anno è alla 47esima edizione, quindi ormai è un piuttosto consolidato, ci avviamo verso il mezzo secolo, che riguarda il concorso letterario del CONI. Il concorso letterario si articola in tre settori: narrativa, saggistica e tecnica. La narrativa può riguardare libri di poesie, romanzi o raccolti di pura creazione di argomento sportivo. La saggistica riguarda le monografie, gli studi storico-letterari, le biografie similari, sempre di argomento sportivo, invece la tecnica, studi specializzati in materia di sport. Quindi sostanzialmente i manuali certo. Queste sono le prerogative di questi tre settori del concorso letterario. Poi abbiamo il concorso per il racconto sportivo, che quest'anno giunge alla 42esima edizione, che è quello che è stato fatto con l'intento di promuovere e rivalutare un genere narrativo poco divulgato, che può essere appunto un premio per il racconto sportivo. Questo premio ha una caratteristica in più rispetto all'altro, che prevede anche, per una sezione particolare, la partecipazione per gli under 18. A differenza dei premi precedenti, che comunque hanno un premio in denaro, ovviamente il premio per l'under 18 non è in denaro e viene riconosciuto con un diploma, e quest'anno deve essere presentato da chi è nato o è nata dopo il primo gennaio 1995. Ecco, nelle edizioni precedenti di Tommaso, qual è lo sport, togliamo il calcio perché immaginiamo che l'abbia fatta da padrona anche lì, che ha ricevuto maggiori contributi a livello di racconto sportivo? A livello di racconto sportivo? Beh, sicuramente il nuoto negli ultimi anni ha fatto un po' da padrone, perché poi probabilmente anche frutto delle emozioni e delle sensazioni dei risultati sportivi del paese. Il nuoto negli ultimi anni è stata una disciplina che ha fatto molto, molto... Sì, Magnini, la Pellegrini. Magnini, la Pellegrini, sì, da Rosolino, sì, Fioravanti, esatto. Quindi comunque tantissimi atleti. La pallanuoto ha avuto qualche racconto interessante, la marcia... No. Che sofferenza, cioè quello che sì, sì, esatto, esatto, c'è esatto. Storia però, lì, esatto, però vi dico che questi racconti sono sempre molto molto interessanti, anche ovviamente il calcio fa sempre da padrone, per carità, però gli altri sport non lesinano racconti, ecco. Poi considerate che nella storia del racconto hanno vinto anche signori scrittori come Marcello Dorta, Bevilacqua, Portinari, cioè proprio siamo Ormezzano, per dire così, Corrado Sannucci, veramente persone di altissimo profilo, Sergio Giuntini. Sì. Chi è che compone la giuria e ecco, quindi valuta la questo? Giuria, il presidente della giuria ormai da tantissimi anni è Gianni Letta. Nella giuria c'è l'ex campionessa di nuoto Novella Calligaris, uh-huh, e Folco Portinari, uno scrittore, e due giornalisti che hanno lavorato in passato anche al Corriere della Sera, che sono Gianfranco Teotino e Nino Petrone. Uh-huh. Ecco, ricordiamo il montepremi, perché insomma può essere comunque un elemento... Il montepremi complessivo è di 4.500 euro per il racconto sportivo, il primo premio è di 3.000 euro, il secondo è di 1.500. Uh-huh. La giuria ovviamente poi può segnalare dei racconti particolarmente importanti che però non riescono a raggiungere il primo e il secondo premio, e ricevono una segnalazione con una statuetta celebrativa. Ecco. Questo per quanto riguarda il racconto sportivo. Poi c'è il concorso letterario. Certo. Il montepremi totale è 15.000 euro, suddiviso 5.000, 5.000, 5.000 per le tre sezioni. Sì, certo. Primo premio sempre 3.000. E secondo premio 2.000, con fatte salve eventuali segnalazioni. Qui non ci sono under 18, e qui c'è un'altra cosa importante: che non possono partecipare gli autori stranieri, cioè solo gli autori italiani. Ahimè, esistono anche degli autori stranieri che scrivono di sport, scrivono anche molto bene di sport, anche cose interessanti, però poiché il CONI è un ente pubblico italiano, dovendo distribuire comunque del denaro, non lo può distribuire agli stranieri, ecco, ai cittadini stranieri. Vabbè, mentre per il racconto sportivo gli stranieri possono partecipare? No, è lo stesso discorso. Per autori italiani, perfetto. Esatto. Noi la ringraziamo molto, allora, tenteremo ovviamente di capire... Ah, l'ultima cosa, che entro quest'anno sì? La scadenza per presentare sì. Al CONI è il 15 aprile 2013. Grazie, allora, a buona voi, serata. Grazie mille. Danilo Di Tommaso, il capo ufficio stampa del CONI, che ha organizzato il Comitato Olimpico Nazionale, che ha organizzato questo premio nazionale per il racconto sportivo, il concorso letterario del CONI. Ho vacillato pesantemente sul concetto di straniero, perché poi dopo, sì. Cioè, capito, no? Stranieri che giocano però in Italia potrebbero scrivere i racconti. Però mi sono fermato un attimo, nel frattempo abbiamo Antonio. Antonio, pronto? Sì, pronto, buonasera. Ciao, sei Antonio. Depresso un po', eh? Sei... Senta, io... No, io guardo sempre, ogni settimana guardo la classifica, sì. Faccio delle domande e vedo il Siena e l'Atalanta che hanno punti di penalizzazione perché i loro giocatori sono stati coinvolti nelle scommesse, nel caso scommesse, e quindi per la responsabilità oggettiva sono state punite con la penalizzazione. Sì, purtroppo. Vedo poi il Napoli che ha avuto un tesserato, Gianniello, che ha confessato di aver fatto delle cose, comunque è stato comunque condannato. Però... E lì la responsabilità oggettiva non è stata comunque considerata. Poi vedo un tesserato Mauri che comunque è stato per problemi vari, comunque è stato anche arrestato, ha confessato anche di aver fatto qualcosa e continua a essere decisivo, mentre magari un tesserato ad esempio come Conte è stato in qualche modo, lui ha detto che non ha mai fatto niente, invece comunque lui si è fatto 4 mesi di squalifica. Cioè mi chiedo come mai i giornalisti ad esempio non fanno queste domande a chi deve seguire la giustizia sportiva. E che risposta ti dai? Cioè tu ti fai queste domande e che risposta ti dai secondo te? No, la risposta che mi do io è sempre la stessa, che ci sia comunque del due pesi due misure e quindi in qualche modo un po' di malafede in chi gestisce la giustizia sportiva. Perché non vedo altre risposte, non ne vedo sinceramente. Malafede addirittura? Malafede? Ardita questa ipotesi. Perché non so. Pesanti accuse di Antonio da Brindisi. No, dicevamo, pesanti accuse di Antonio da Brindisi nei confronti della giustizia sportiva. No, voi come vi spiegate il fatto che Mauri continua a giocare e che Gianniello, nonostante abbia confessato la sua squadra, non abbia avuto i punti di penalizzazione? Cioè, va bene, fermo lì, te lo diciamo per radio. Ciao, grazie, ciao, dici. No, il caso Lazio-Genoa deve ancora essere discusso dalla giustizia sportiva, nel senso che Mauri della Lazio è effettivamente uno dei giocatori coinvolti come Sculli, eccetera, e la giustizia sportiva non è che può decidere tutto. Pian piano decideranno... È lenta, ha i suoi tempi. Ad esempio il Napoli è stato deciso, la giustizia sportiva credo che nelle prossime settimane affronterà anche il caso di Lazio-Genoa, quindi quei giocatori coinvolti, e vedremo che decisione prenderà. Dai e vai, non è solo calcio. Le agenzie scrivevano così, il titolo era quarto, nuovo raid contro la squadra di clan di calcio anti-clan. Quarto, ricordiamo, non quarto quella di Genoa, quarto vicino a Napoli. Perché, sì, ecco, in questo caso. Però ecco, quindi ci siamo incuriositi, intanto per scoprire che c'è una squadra di calcio anti-clan e abbiamo direttamente telefonato a loro. Abbiamo parlato e abbiamo in linea in questo momento Luigi Cuomo, il presidente di Nuovo Quarto Calcio. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera Presidente, come va? Bene, grazie, buonasera. Bene. Senta, allora, Nuovo Quarto Calcio, possiamo raccontare un po' questa storia di questa squadra, com'è che nasce, no? Nasce da un sequestro giudiziario dalla Procura Antimafia di Napoli, che sottrae la società ad un presunto affiliato al clan De Polverino, attualmente sotto processo e in carcere, e affida la squadra all'amministratore giudiziario. All'amministratore giudiziario viene affiancata l'associazione anti-racket che io presido, e insieme stiamo cercando di realizzare un doppio obiettivo, quello di riportare la squadra, che nel frattempo era degradata in promozione, nella sua categoria, diciamo, di eccellenza, e poi di creare intorno alla squadra un movimento di liberazione dai condizionamenti mafiosi che questa città per alcuni decenni ha subito e in parte subisce ancora da parte dei clan camorristici locali. Quindi questo interesse arrivava fino ad avere appunto la squadra di calcio in questo caso, no? Certo, questo è uno strumento che generalmente i clan locali usano per acquisire ruolo sociale, per avere nelle mani uno strumento di riciclaggio del denaro. E consenso anche, no? Consenso e estorsioni che fanno attraverso, diciamo, l'imposizione delle sottoscrizioni a favore della squadra, spesso. E sottoscrizioni di che tipo? Cioè... Beh, quando viene chiesto di sponsorizzare la squadra, le imprese per cifre che le imprese magari non possono o non avrebbero mai voluto, lo si nasconde questa estorsione attraverso una richiesta di sponsorizzazione. Ma quello che conta di più effettivamente è il ruolo sociale, il consenso che presiedendo una società di calcio dilettantistica cittadina si riesce a conseguire. Ma questo succede anche per livelli come appunto la promozione all'eccellenza, quindi livelli... Soprattutto in queste categorie. Ah, soprattutto? Ma grado non siano dei livelli altissimi nel mondo del calcio, nel senso che poi oltre a questo c'è la Serie D, c'è la Lega Pro, cioè stiamo parlando di un livello né bassissimo, però neanche fra i più alti. Infatti, ma noi stiamo parlando di livelli di, diciamo, di controllo territoriali in piccole città, in piccoli centri, dove appunto i clan locali subiscono anche meno rischio di essere intercettati. Una squadra più grande, una squadra di categoria superiore, ha più controlli. Senta, intanto che posizione è? C'è un torneo, no? Sì. Quindi in questo caso sì, che posizione è? Il nostro campionato noi siamo primi, anche se oggi abbiamo dovuto subire una battuta di arresto, no. Oggi purtroppo. Ma perché? Oggi purtroppo con 5 titolari in meno e 3 titolari in attacco. Quanto abbiamo perso, Cuomo? Quanto abbiamo perso? Semplicemente 1-0. 1-0. 1-0, vabbè, insomma. Abbiamo un'ottima difesa. Possiamo dare delle responsabilità all'arbitro? No, così tanto per fare come nel calcio vero. Cioè, già. No, guardi che non è uno scherzo. Purtroppo il fatto di mettere in campo una squadra con questa maglia crea più tensione di altre partite. Sì. Certo, gli arbitraggi che abbiamo avuto finora non sono mai stati all'altezza, qualitativamente parlando, della situazione, perché si genera automaticamente una tensione particolare. Le squadre che incontriamo competono come se fosse la squadra, come se fosse la partita, diciamo, della vita. Vincere contro una squadra forte e così sotto gli occhi dei riflettori per loro è molto importante. I nostri naturalmente sono molto motivati, i nostri giocatori, oltre che essere bravi, hanno anche fatto una scelta etica, portano sulla maglia il logo della legalità e sanno che devono rispettare alcuni codici. Quindi una tensione si crea sempre in questi casi. Qualche volta siamo andati fuori casa e abbiamo subito cuori ingiuriosi. Ecco, però diciamo, voi siete protagonisti anche perché settimana scorsa c'è stato un ennesimo episodio nella vostra sede. Ecco, cos'è successo? Sì. Sono entrati nello stadio e hanno portato via, dopo aver smantellato una grata pesante da una finestra, hanno portato via soltanto oggetti e simboli di nessun valore economico, ma di un elevatissimo valore simbolico, cioè i gagliardetti, le targhe, la coppa, che erano stati vinti in occasione dell'ultimo torneo per la legalità fatto con i magistrati, i giornalisti, Libera, e non hanno portato via invece oggetti che potevano avere un valore commerciale anche di una certa importanza, avevamo il computer, la stampante, l'impianto voci, nulla. Quindi era un messaggio abbastanza chiaro, mi sembra di capire, purtroppo, no? Purtroppo sì. Vabbè, senta, ma ci sono, c'è il club dei tifosi, vi seguono? Sì, noi stiamo diciamo, costruendo un consenso intorno a questa squadra che prima era fatto di un certo tipo, adesso, come dire, deve adeguarsi alle nuove regole. Anche il nostro tifo, prima la squadra era accompagnata da ultra tipici, adesso il nostro ultra sono dei ragazzi, dei bravissimi ragazzi che fanno un tifo esclusivamente a favore della propria squadra, mai ingiurioso contro le altre squadre, mai proteso a fare gol contro forze dell'ordine o quant'altro. Quindi stiamo cercando di adeguare anche la tifoseria al regolamento etico della squadra. Va bene, noi la ringraziamo, noi ovviamente seguiremo da adesso in avanti ovviamente il nuovo quarto calcio, diciamo che noi possiamo per via delle tessere del tifoso, è complesso come dire fare la trasferta, ma diciamo che comunque noi dai e vai seguirà attentamente tutto quello che accadrà e soprattutto seguirà questa squadra che ha un senso in un mondo del calcio dove ci sono tantissime squadre che non hanno senso, tipo la Sampdoria, no, non è vero. Tifa appunto Luca Gattuso. Giusto, Cuomo, la maglia di che colore ha? Ci avete... tinta bianco unita. Bianco azzurra, ma con le righe metà e metà, com'è? No, è azzurra con dei richiami bianchi. Azzurra con i richiami bianchi, quindi molto simile alla Lazio, mi verrebbe da dire, no? Più simile al Napoli. Ah, più al Napoli. Guarda caso. È un po' così. Vabbè, si ammicca in questo caso. Vabbè. Grazie, risentirci. A presto, grazie. Luigi Cuomo, presidente del nuovo quarto calcio, la squadra cosiddetta anticlan, anticamorra, ecco, nella zona di Napoli. Vabbè, intanto continuano a far vedere immagini su immagini. Ora avranno di fatto rivedere almeno la partita 8 volte, no? Esatto. Su Sky. Cioè, sai la cosa? Che anche rifacendo vedere la partita abbiamo battuto i francesi 23-18. Sempre con lo stesso punteggio. Esatto, cioè, fanno vedere tutte le mete. Non è che però aumenta man mano che che passa il tempo, no? Voglio darti una notizia legata al calcio invece. Ah, proprio stiamo... Sì, perché a Palermo la situazione, al di là delle battute che abbiamo fatto all'inizio, è abbastanza calda. Cioè? C'è Gasperini che è negli spogliatoi con i dirigenti, il segretario, il vicepresidente e pare che sia stato chiesto un indennizzo di 300.000 euro da parte di Gasperini in caso di esonero e quindi si sta cercando una soluzione. Ha chiesto oggi? Sì, no, perché sono lì che stanno trattando perché a quanto pare c'è una buona possibilità che Gasperini entro questa sera venga esonerato dal Palermo, quindi stanno, come si dice, trattando la buona uscita, si dice così? Ma esatto. Scusa, ma penso che sia stato scritto sul contratto. No, certo, no. È scritto sul contratto, ma magari trattano la buona uscita in modo tale che poi non gli devono garantire tutte le stipendi. Vuoi sentire un attimo un pezzo di rugby? Su Montepelmo, via! Stiamo parlando d'Italia, cioè esatto, Italia-Francia di rugby. Questo qua, ecco, cosa stanno facendo? Non lo so, perché dopo becchiamo l'unico momento in cui non dicono nulla e quindi... Se adesso finisce qui la partita, Antonio, ricorda quel famoso detto dei suonatori che erano andati per suonare e sono stati suonati. Ok, grazie. Ok, forse non è il caso proprio di sentirla tutta questa radiocronaca. Esatto. Nel frattempo, ma invece andrei a parlare ancora, in questo caso, non di rugby, ma la cosa, esatto. Come dire, un po' Beh, più... Sempre pallovale. Pallovale. Però se non è rugby, ovviamente football americano e questa sera ricordiamolo, questa notte. Esatto, no? Questa notte è una giornata importante per gli appassionati di football americano perché questa notte c'è l'appuntamento principale anche per gli appassionati italiani, ossia il Super Bowl e in quel di Torino hanno pensato bene di ritrovarsi in un locale per seguire tutti assieme, abbracciati e felici, il Super Bowl che si svolgerà a New Orleans. Ecco, parliamo con Alessandro Lucca, giusto? O Lucca? Esatto. Sì. Lucca? Buonasera a tutti. Esatto. Lucca? Lucca con due C, come con due C, ho capito. Anche se sono a Torino, ma... No, ma va bene. Allora, il tuo locale si chiama? Il mio locale è il locale di alcuni amici, si chiama Newcastle Pub, ed è in centro a Torino, vicino a Piazza Statuto, in largo Cibrario, per chi conosce Zona. Adesso, dici anche loro... Fai gli aperitivi, ho capito che adesso ci dai anche tutto quanto il menù e poi tutte queste cose. Esatto. Ale, datti un contegno, va dai. Okay. Scusa, allora... Scusate, ma sono un po' senza voce perché abbiamo seguito i cugini del rugby, abbiamo tifato per la nazionale, quindi... La voce va e viene. Ma sempre nello stesso pub avete di fatto? Sì, esatto. Ah, eravate lanciatissimi all'interno del pub, quindi non c'è discriminazione fra football americano e rugby, almeno in Italia? Ma dipende, nel senso che il rugby, i tifosi, gli appassionati di rugby vedono un po' il football come una cosa minore, nel senso che penso che dal loro punto di vista il rugby sia più puro, più nobile, insomma, sì, più questa, nobile, certo. Terzo molti tempo. Di, molti appassionati di football seguono anche il rugby, difficile il contrario. Mm. Ah, quindi gli appassionati di football tollerano il rugby, mentre alcuni, non tutti, però mentre quelli del rugby hanno una certa superiorità, tradizione. Sì, sono un po' più nuovo. Poi c'è le, per carità, c'è l'eccezione anche da parte delle. Sì, dei ma noi su questo, su questo no, non ci formalizziamo. Noi adesso passiamo da uno sport all'altro e andiamo ovviamente al Super Bowl, perché voi questa sera fate il Super Bowl Party, non sarebbe, cioè, esatto, vi riunite tra di voi in qualche modo a vedere questa partita. Alle 2, giusto? No, inizia a mezzanotte. Sì, la diretta. Mezzanotte finirà verso le 4 di mattina più o meno. Se non si fa i supplementari. Ma allora dignitosissimo, ma cioè si gioca oppure ci sono soltanto pubblicità a mezzanotte? No? No, inizia a mezzanotte, si gioca chiaramente, come essendo l'evento classico all'americana, ci saranno un bel po' di spot pubblicitari in ogni frazione di secondo in cui non si gioca. Ma allora partiamo. Si inizia, pronti via, inno americano, poi un po' di pubblicità, inno americano, pubblicità, poi partita, esatto. Entrano dentro uno per uno tutti quanti gli atleti, vengono presentati 20 minuti, poi pubblicità, poi no, in quel caso lì all'inizio scusa pubblicità, vai avanti, poi? No, adesso state esagerando, non c'è poi così tanta pubblicità. La pubblicità la mettono quando ci sono i time out e qualche tempo un po' più lungo, qualche tempo morto. Anche perché costa talmente tanto quella pubblicità, esatto. Giusto? Sì, anche perché il Super Bowl è comunque l'evento sportivo più seguito al mondo. Sì. Anzi, l'evento, direi, televisivo, da quello che sapevo, più seguito in assoluto al mondo. Perché, per capirci, dal punto di vista, beh, insomma, io adesso su questo sarei un po' più cauto. Rimane sempre che il notiziario della TV cinese ha sempre un circa 650 milioni di persone ogni sera che la vedono, come dire. Quindi sarei un po' cauto. Ma io parlo di statistiche che ho letto in giro. Sì, dal punto di vista sportivo, sicuramente è un grandissimo evento e ha questo tipo di passaggio. Dai e vai, non è solo calcio. Caro Alessandro, col cavolo questa sera faremo così veloce, voglio dire, cioè, lì dovrei aspettare. Di solito com'è che vi organizzate? Quanti sarete stasera? Ma allora, guarda, so che il pub ha già ricevuto 40-50 prenotazioni per avere i posti migliori, diciamo. Lo scorso anno abbiamo fatto la stessa festa, il pub è su due piani e sotto era strapieno e sopra c'era un po' di gente. Quest'anno si prevede ci siano molte più persone, quindi forse avremo anche oltre un centinaio di appassionati. Ecco, ma poco per volta, insomma, anche qua il football americano, come dire, comincia a avere una quantità di tifosi non indifferente, insomma. Sì, esatto, stiamo tornando un po' ai livelli dei primi anni 80, quando il football in Italia è stato il terzo, quarto sport a livello di pubblico. Certo, abbiamo avuto certo. Delle finali all'epoca negli anni 80 con 12.000 spettatori, qualcosa del genere. Ora siamo purtroppo calati mostruosamente negli ultimi anni, ma negli ultimi anni con l'avvento di internet che c'erano i bolognesi, certo. C'erano Bergamo, mi pare, qualcosa del genere, mi pare, no? Sto dicendo le stupidaggini. Sì, Bergamo negli anni 90 ha dominato, è rimasto in battuta qualcosa tipo 10 anni, prima ancora le milanesi, I Rams, tra i tanti, Rhinos, Frogs, Rams, i Warriors, i Jaguari, che sono la squadra di Torino. Com'era quella di Bologna? Non mi ricordo più, quelli di Bologna come si chiamavano? Warriors Bologna e Doves erano le due squadre storiche dell'epoca che esistono ancora tuttora. Ecco, adesso quanti sono rimaste? Quante squadre sono rimaste adesso? Ma adesso ci sono parecchie squadre nel campionato italiano, perché è diviso in tre categorie. C'è una categoria, diciamo, possiamo dire la Serie A, che si chiama IFL, dove giocano una dozzina di squadre, del campionato dove giocano anche gli americani, quindi giocatori che provengono da college. Qualcuno addirittura è stato un ex giocatore dell'NFL a livello però comunque di... diciamo, di seconde scelte. Ma è un po' come Drogba in Cina, non so come dire, o Del Piero a Sydney, cioè, no? Guarda, se parlando una lingua a me è sconosciuta, perché no, io proprio sono appassionato di sport, ma il calcio no, adesso è non fare quello da me no, non fare quello altezzoso no, che dice no, io il calcio non voglio sapere che cosa sia. No, dai, su, che no, non è che non voglio sapere, non so proprio cosa sia di diverso. Proprio così. Senti, ma questa sera lì al pub, cioè, veramente alternativo. Sì, però, sì, sì, sì, proprio questi al pub questa sera sarete lì come appassionati che lo guardano dal punto di vista tecnico, cioè, o c'è anche, diciamo, ci sono anche dei tifosi di San Francisco, di Baltimora, cioè le due squadre che fanno il Super Bowl. Ci sarà un po' di tutto, perché ci saranno in blocco un bel gruppo di giocatori della squadra di Torino, dei Jaguari, ci saranno un po' anche di giocatori di una squadra nelle vicinanze, i Blitz di Cirié e i Blacks Rivoli, che sono comunque, diciamo, i cugini dei Jaguari, qui si gioca il famoso derby di Torino, no, del football. Ma, beh, più schierati, ci saranno però anche tanti appassionati che non sono dei giocatori, quindi non arrivano dalla parte tecnica, ma sono tifosi, e abbiamo raccolto un bel po' di tifosi, penso bene, più dei 49ers, perché San Francisco comunque ha una tradizione praticamente già dai tempi di Montana, Ale, più tifosi. Ale, ti dobbiamo tagliare, non perché non segui il calcio, ma perché dobbiamo andare al calcio, perché tra poco arriverà ovviamente un'altra partita. Ne ricordo soltanto che noi quest'oggi abbiamo avuto ospite il campione italiano di badminton, badminton, non ricordo mai questo. Giovanni Greco. E poi la prossima domenica avremo il taekwondo. Perché capisco, noi non ci occupiamo di calcio, ma poco in realtà, hai capito? Grazie Alessandro. Grazie a voi. Ciao. Ci sentiamo stasera. Stasera c'è una sorpresona per gli appassionati di football americano nella puntata delle 22-23 di Dai e Vai. Ciao, grazie. Ciao. Scherzavo. No, guarda, già scatenato subito l'agitazione. Ho detto, come taekwondo? No, tranquilli. Andiamo direttamente però a parlare con Daniele Muraro, perché chi è? Udinese, Club Udine, di Udine. Sono qui in trasferta. Stanno arrivando giù. Daniele, pronto? Sì, quasi siamo qui. Buonasera a tutti. Dove siete? Siamo in tangenziale. C'è la coda? No, adesso no, si è liberato, ma prima sì. Sì, vabbè, dai, no? C'è tempo adesso, non sì, ti sì, agitare, sì. Tanto non è che proprio... No, infatti. Tranquillo, infatti. No, cioè, no. Ecco. Sentite, ma voi... Visto che siamo, ti faccio sentire la nostra corriera, eh? Vai. Eccolo qua, cominciate già a scaldare un po' i cori, insomma, per questa sera. Senti, Daniele, ma la prova del palloncino non ve la fanno all'ingresso, mi sembra di capire. No, ma tanto, infatti, la fa l'autista eventualmente, noi non sentiamo niente. Certo. Adesso, scusa, allora, stasera entra in campo il Balo, avete paura? No, non abbiamo paura di nessuno, né tantomeno di Balotelli. No, Noi siamo l'Udinese e ce la giochiamo con tutti. Sì, tranquilli? No? Tranquilli e beati proprio. Vabbè. Poi noi abbiamo una signora difesa, magari va a finire diversamente, però noi ci crediamo. Senti, ma questa sera voi a che ora uscirete? Uscirete a mezzanotte? No, oppure uscirete prima? Dipende quando ci fanno uscire, Sì. Non siete... credo 11 qualcosa ci facciano uscire, insomma. Ah, vi tengono lì un po', quindi? Ma di solito quando siamo in trasferta una mezz'oretta dopo la partita ci tengono dentro. Ah, sì. Perfetto, beh, allora magari stasera ci sentiamo così, ci racconti che cosa si fa in quella mezz'oretta quando la partita è finita, lo stadio si sta svuotando. Quanti siete su quel pullman? Ecco, il pullman è esaurito, siamo in 55. Blocco granitico, insomma. Sì, quanti sarete dell'Udinese nello spicchio lì? Credo, purtroppo, giocando domenica sera, tanti hanno rinunciato alla trasferta, saremmo in 200, 250 fa la grande. Ah, proprio tra amici, insomma, vi conoscete tutti ormai. Se giocava di pomeriggio si arrivava in migliaio, ma di domenica sera, domani si va a lavorare, è un problema. Sì, poi tra l'altro comunque vi troverete di fronte invece un muro rosso-nero, perché ovviamente il debutto di Balotelli crea tutta questa agitazione. Certamente, questo, ma comunque San Siro è sempre un signor stadio, a prescindere dei giocatori. E quello che si dice è un bel vedere, insomma. Anche se vi mettono là in piccionaia, nel terzo anello là in cima, sì, non è che si veda bene da là, È vero, siamo in piccionaia, però lì è il settore ospiti e lì ci mettono. Senti, come siete organizzati? Vi siete fermati all'autogrill, avete cominciato a portare a casa un po' di roba? Ma no, per mangiare, intendo dire, per mangiare. Sì, portate da casa? Sì. anche tavoli e via alla Modi Udinese Club. Ah, ecco. Quindi cioè, arrivate all'autogrill, montate il tavolo, vi mettete lì, vi sedete. A che ora siete partiti? A mezzogiorno e mezzo. Ah, quindi proprio un bel viaggio. Mezzogiorno e mezzo. Quindi scusa, pensa con calma. Ecco, uscirete alle 11 e arriverete lì domattina alle 5. 4 e mezza, sì. 4 e mezza, 5. Saremo utili per le 4 e mezza, 5. Sì. Vi fermate per mangiare qualcosa? No. No, dipende. Se la corriera dorme, no, facciamo tutto un tiro. No. Sì, senti, invece... ma una trasferta qui direttamente da Udine a Milano, cosa viene a costare per ognuno di voi? Oddio, dipende. Vai, cioè, noi con questa corriera qua abbiamo pagato 50 euro a testa. 50 euro, più il biglietto? Più il biglietto, ovviamente. Sì, che costa il biglietto? 18 euro. Ma sì. Una roba assolutamente dignitosa. No, infatti, gli altri stati in Italia chiedono ben di più, tipo... Torino due sabati fa chiedeva 32 euro. Con quel che costa, tra l'altro, quel costato quella roba lì. Vabbè. Senti, percentuale femminile sul pullman? Percentuale femminile, aspetta che te lo conto. Ma un 20% di donne qua dentro. 20%? Sì, c'è dibattito però. C'è dibattito, ho capito. C'è dibattito. No, comunque un 20% buono. Ah, 20% c'è. 20% buono, che non mi sembra male come statistica da questo punto di vista. Vabbè. No. Età ragazzi, media? Poi le ragazze che tifano sono più tifose degli uomini. Certo. Scusa, età media? Età media andiamo dai 15 ai 60. Siamo, vabbè, diciamo, sulla trentina la media, dai. Daniele, preparati perché stasera ci sentiremo prima di farvi uscire, ok? Anzi, restate lì fino a quando non telefoniamo noi. Ciao, grazie. Va bene. A risentirci. Ciao. Vabbè, noi a questo punto è il momento anche di lasciarci andare, no? Non soltanto a noi, ma ci lasciamo proprio andare in generale. Anche per dire che al mixer questa sera c'è stato Pietro Lacorte e Roberto Scaltritti. La regia è stata, come ogni domenica, di Sergio Ferentino. L'assistente al programma Giorgio De Luca. In redazione Luca Cancellara. E ricordiamo ancora qua le solite voci, ricordiamole, no? Sì, in vai, è un programma di e con Luca Gattuso e Sergio Ferrentino. L'altra pianeta è di Laura Bettina, arriverà tra poco. Questo è Dai Vai 24, cari ascoltatori. Vediamo appuntamento la prossima settimana. Prima o poi torneremo. Nel frattempo ricordiamo però il risultato. Anche stasera, direi, Ah già, è vero, anche stasera. No, perché c'è il Super Bowl. Se vuoi, no, quel del pomeriggio la prossima settimana. Poi questa sera ci sono gli altri. Okay, dire, questa, anche perché stasera parleremo di Super Bowl e per tutto quello che voi state ascoltando proprio in questo momento. Grazie, a risentirci qui direttamente. Vuoi dire qualcos'altro? No. Ecco, sai cosa volevo? Stai venuto il respiro. Stai morendo, Luca. Stai venuto il respiro proprio morendo, in questo momento. Sì, ma no, che roba brutta. No. Ma che tristezza. Ho capito che non volevi tornare stasera. Ciao, a risentirci. A dopo, ciao.